Devi rollare, se lo vuoi fare con pura forza, devi fare 10. Ti dico già il numero. Se lo vuoi fare con una questione di agilità e roba del genere, devi fare almeno 6. Chiaramente, se la matematica non è un'opinione. Sei sul dado, cioè non sei totale. Hai su, sì, Ho già certo. calcolato. Devo rollare anch'io. No, tira solo chi fa l'azione. Tu contribuisci mettendoci le robe. Sei delle abilità per... Non No. serve a un cazzo. Cioè, non serve che sprechi nessuna abilità. faccio finta di no, allacciarmi la scarpa. Hai fatto uno. Nibel nota che hai tentato di prendere la lettera. E hai fallito. Dammi un buon motivo per il quale dobbiamo tenerla intera e dirlo agli altri. Se non altro perché almeno possiamo sentire la loro opinione in maniera unbiased, senza io che mi dimentico la roba. E qua lì è onesto perché tipo sono già dimenticato cosa c'è scritto quella cazzo di lettera. Un po' malgrado ci Poi rimugino un po' possiamo sopra dargli e gli... fuoco, poi puoi continuare anche a bruciare le centrali per quanto mi riguarda, cioè non sono contro la tua crociata io. Anzi. Gliela passo così può rileggerla. Cioè me la lasci per o la vuoi indietro? Ah, te la lascio. Ok. Ci ha rinunciato, comunque non cambierebbe idea su quello che vuole fare. Non è Per ora almeno. sicuramente un pezzo di carta scritto da un vecchio che deve cambiare le tue opinioni. Esatto. Deciderò io se il mio piano è fallito oppure Figo. No, e che cazzo ho fatto? Ho fatto una cazzata. Vabbè, Eh sì, lo so, ho pigiato per sbaglio una roba. Andato? Dove l'hai fatta la cazzata? No, è già, ho già chiuso. No, aveva fatto partire. Lui? Ok. Cosa Ma vuoi che fare sta questa cazzata? succedendo? Ma raga, ma se avete 30 anni, 85, cosa state A parte che facendo? non lo sai quanti anni ho, abbiamo riavvolto il tempo, quindi tutto può essere. Ah, certo. E primo, secondo Ed è luogo. Sara la Gruber, tu hai tipo 14 anni e lei ne ha 21. Esatto. Dicevo. E siete in questa fantastica situazione in cui siete lontani dai vostri amici, Amici, colleghi. colleghi. Colleghi. Mamma mia. E ditemi voi come, cioè, cosa volete fare. Qual è il prossimo passo? E osservare la meridiana. Osservazione interessante. La meridiana è fatta di un metallo molto puro, più per livello dico. Quindi, cioè, lieto, non credo noti questi dettagli. Un livello di purità che raramente si trova negli oggetti costruiti per questo uso. È più una roba che si estrae col preciso uso alchemico. Mentre invece quando devi costruire un oggetto, se è un po' impuro, è anche più resistente il metallo. Ok, che non è naturale, è prodotto con l'alchimia. No, non è prodotto con l'alchimia, è il genere di roba che serve quando fai l'alchimia. Con l'alchimia servono i metalli purissimi, perché se ci sono le impurità, Ah, ok. cioè, rischiano di interagire col prodotto. Quindi ci stai dicendo che è un ottimo investimento da caricarsi sulla schiena? Non pesa così tanto da non poterlo portare, è come se fosse una lancia un pochino più scomoda da usare in combattimento. Ma vuoi, Nibel? Boh. Magari riusciamo a rivenderla per farci qualche spiccio. Sicuramente qualcosa vale. Poi possiamo venderla come reliquia. Qualcuno Sì, ci crederà. anche. Magari, non lo so, è riconducibile a qualche divinità nello specifico. Nessuno che conosciate voi. Prendi come vuoi questa cosa che ho detto. Sì. Magari qualche tempio. Tanto sono abituati a fare razzia dei culti antichi, quindi non ci metterebbero niente a reclamarlo come qualcosa del loro dio. Onesto, vieni con noi. Io sai che sono un grande sostenitore della cleptomania nelle mie campagne. E puoi segnartela nell'inventario, se if so you wish. Meridiana. La metto io o la metti tu, Oss? La metto io. E... come preferisci. Meridiana di... Dai, non so quanto è grande. Io la lascio questa di canzone. No. Kid Yugi si chiama. Amici Terroni, no. Amici Terroni, devi sentirli gli Amici Terroni. Non puoi farne a meno degli Amici Terroni. Oh, è ripartita. Però c'è un errore fatto più di due volte. È una scelta conscia. Bianca, no, no, è Uzox che sceglie di farlo. Vediamo un po' se va al bot affidabile. Ma infatti, cioè, non è qualcosa che decide lui. È proprio il bot che fa il cazzo che gli pare. Mon frère! Mon frère, rifunziona Ela! Incredibile! È un miracolo di Natale al 23 di settembre. Non ti ho mai visto così felice in tutta la tua vita. È vero. È proprio così. Non dire una cosa, ma... No, basta, no, troppi dettagli. Andiamo avanti. E... non mi ricordo cosa stavamo facendo. Dica? No, niente, vabbè. Dica. Siete sempre sulla rupe tarpea e niente, vorrei che mi diceste cosa fate prima di proseguire. Direi che we go back. Accingiamo. Sì. Giusto, era quello che volevamo fare. Okay. Go back, sì. Nel senso andiamo dagli altri due, avevamo detto che ci eravamo rivisti lì, quindi mi pare lì dove? Lì al tempio. Ok, scusa, volevo fare il bastardo. Lì sull'isola. Vabbè. Grande Lost. Ti seguo dalla prima stagione. Io cane. Devo pagare i diritti, secondo voi, per aver detto sta cazzata? Spero di no. Spero di no. E... allora, facciamo tutta l'analisi. Il percorso che fate è lo stesso che avete fatto all'andata. Quindi fate il giro in senso orario della rupe, dell'altopiano, finché non arrivate alla scalinata, molto lunga, molto faticosa, la fate relativamente normale perché siete allenati, quindi la reggete. Siamo quelli fit della situazione. Esattamente, siete quelli che ce la fanno. Non notate nulla di particolare, non c'è nessun evento strano, se non che il tempo meteorologico sta diventando più brutto. Però era una cosa che c'era anche prima, si alza il vento, si aumenta il numero di nuvole nel cielo. Okay. Potrei dire che fa un pochino più fresco, non in modo grave, però tutte cose normali, nel senso è inverno, succedono queste cose. E quando raggiungete la cima, superate gli ultimi scalini e vedete oltre l'altopiano, quindi vedete prima la cattedrale, sì, credo sia una cattedrale tecnicamente, comunque vabbè, il grande tempio di Diru Apeira, e oltre di essa, oltre la chiesa, c'è il mare, si vede il mare, quindi il porto di Pirenia e proprio non credo sia l'oceano qua, credo sia il Mar Senico, sì, che prosegue. Okay. Le condizioni atmosferiche brutte non ci sono solo in un punto, che se volete che vi dico qual è, dovete rollare un D10, altrimenti è quasi tutto brutto. E rollia... sì, cioè, ne vuoi uno solo o ne vuoi entrambi? Sì, sì, sì. No, entrambi. Su che cosa? E geografia. Geografia che è scultura. Io ho fatto 9. Sommando tutto? Sì. Nibel ha fatto. Ok. 7 e 9 sono nella stessa categoria, quindi vi dico che è a sud-est di dove siete ora. Però non vi ricorda niente di particolare. Ok. Quel okay. punto là. E niente. Il tempio è esattamente come ve lo ricordate, anche perché nella vostra testa è passata 40 minuti, cioè il tempo di ritornare qua, dal centro città, ed è perfettamente identica, ad eccezione di un dettaglio che notate solo dopo che vi siete che avete raggiunto la cima e avete un attimo perlustrato i dintorni, ed è che la cesta, dove molto grande, dove ci sono tutte le offerte, è più piena di quando siete passati la prima volta. Ok. E è l'unica differenza. Il resto... qualcuno si è svuotato le tasche? Direi di sì. Strano, però. Così tanti soldi in così poco tempo. E... strano anche che così tanta gente sia disposta a visitare i templi. Vero. Ai tempi d'oggi. Vero anche quello. Questi giovani. Che si è cambiato. Si è cambiato qualcos'altro tornando indietro nel tempo? Magari Cronos ha maneggiato con qualcos'altro nel frattempo. Ma è troppo complesso. È stata anche un'offerta di Cronos al tempio. Molto generoso da parte sua. E entriamo, direi. Ok. Il tempio ha diversi peripheral egress. Non mi ricordo che cazzo è il termine. Dall'entrata principale. Ok, quindi fate un attimino il giro e ripassate molto vicini a questo cesto. E quindi c'è qualcosa di particolare dentro il cesto? Sono monete di metallo. Monete di metallo. Okay. Cioè, oltre alle monete di metallo, non c'è nient'altro. No. Ok, ci metto un manapenny dentro. Sara entrerà ora. Devi rollare uno di 10. Che cazzo vuol dire? Sara... no, hai detto che ci metti un manapenny dentro. Ah, ok, pensavo mi stessi per rollare per no, no, no. Sara. Infatti. Bello però, molto bello. Vabbè. No critico, Sara si ammazza. Togliti un manapenny. Allora, ci sono due eventi che succedono. Il primo è che io vi devo resettare l'inventario. Cioè? Okay. Tutte le cose che avete comprato dall'ultima... capito? C'è stato tutto un periodo che non è mai successo. Ma noi abbiamo viaggiato. Tu hai un'armatura di cuoio al posto della tonaca, perché l'avevi comprata dopo aver incontrato Cronos. Ah, quindi lui ha spostato noi e il tempo alla stazione precedente, ma non i ricordi. Cioè, i ricordi, non il noi. I ricordi in maniera stocastica, ora vedremo, perché già... Sì, dalla lettera era chiaro che... No, devo togliere e la pite dall'inventario. Sì. E però ti puoi riprendere i manapenny che avevi speso. E... cosa che ho speso? Un manapenny, forse? Sì, Lieto ne aveva 23 all'inizio di questo evento, quindi va a 22, perché ne hai buttato uno adesso dentro... la cesta. Ok, sì, ci sta. Pellicce, quella lì ce l'ho già. E vorrei aggiungere una cosa estremamente ominous, che è this action will have consequences. Senza dirti altro. Così. Palle. Smettiamo di giocare a Fateful, please, basta, non ce la faccio più. Questo tira le monete nel tempio, cosa ti aspetti che succeda? No, per carità, c'hai ragione. Non fare le cose. Che le divinità esistono. Ma sì, dai, buttiamo sassi. Cioè, monete alla divinità dei soldi. Manapenny, la divinità dei soldi. Sì, vero, tra la Maron. È quello il punto. Ma non è l'azione che conta. È il pensiero che conta. Arriverà il giorno in cui dovrei spiegare questo a qualcuno. Non è questo il giorno, quindi perché preoccupartene ora? Vero. Benissimo. All'interno del tempio c'è una donna. Vi è molto familiare, l'avete vista un'ora fa nella vostra testa. La seconda volta che viaggiate nel tempo, quindi cominciate a fare pratica col fatto che il tempo che percepite voi non coincide col tempo reale. E la signora è coperta di oggetti d'oro, decorazioni, sì, di forma circolare, esattamente come la ricordate, e ha un lungo vesto rosso. La cosa che non vi ricordavate, e qua cominciano a fallire i ricordi, sono i suoi occhi, che sono sprovvisti di iride. Cioè, ha la pupilla, il bianco e basta, non c'è la parte colorata. Ok. Io te la ripeto in maniera più esplicita, non avete memoria di questa caratteristica della signora. Ok. Sai che mi è venuta in mente una cosa? Dicaci. Dell'altra volta, Bianic, dicaci. Che io effettivamente non mi ricordavo quello dei suoi occhi, però Adonne aveva ceccato gli occhi della tipa. Sì, e avevi rollato male. Ah, perfetto. Ah, perfetto. Per a posto, mia fortuna. Benissimo. Mamma mia. Sì. A posto, a posto. Grazie per l'assist. Ma che ce li ha sta vecchia? Come hai detto che ce li ha? Vecchia è più giovane di Nibel, ha una quarantina d'anni. Non ha l'iride, ha solamente la pupilla e il bianco. Ah, ok. Ma è proprio completamente bianco oppure è tipo effetto cataratta che è imbianchito? L'iride... Non c'è niente tra la pupilla e il bianco. Immediatamente diventa sclera. Sì, esatto. La sclera diventa subito pupilla. Ah, ok. Non ho capito. Altri visitatori? E ha visto passare di qua per caso... Ah, è vero. Non posso dirti quelli che abbiamo visto prima. Sono già passate delle altre persone da questa parte. Per caso anche voi due conoscete la parola d'ordine? Guarda Nibel. No, non c'è stata detta nessuna parola d'ordine, però stiamo cercando una ragazza dai capelli biondi e un ragazzo. Stiamo cercando la signorina Standout. Oh, e chi Beh. Siete voi? Noi in realtà ci siamo già parlati. Abbiamo già avuto una conversazione e dovevamo scendere nel tempio. Sono Nibel Bjornsson. E sono lieto. Lieto è, provo a dire. Com'è? È Beckin Fardo? Signor Cadorna. Si contenga. Scusa, mai rovinato la poker face con sta cosa. Sì, tu con i capelli rossi, credo di conoscere la tua famiglia. Tu invece di dove sei? Dall'accento scirocco? Sì, sono scirocco del nord. E anche se la pelle sembra di scirocco del sud, lo so, le battute le ho già sentite. E vedo che hai la spilla della Zenith. Come mai della Zenith High? Come mai da queste parti? È una storia molto lunga. Oh, io ho tempo. Ma noi no. Beh, temo che se volete che mi fidi di voi dovrete dirmi di più. Io sono solo un accompagnatore, faccio da braccia per il gruppo, semplicemente. Io sono fuggito da Oclica a causa della peste. Sono arrivato qua con un portale. Wow, portale. Con un portale di funghi. Certo, Super Mario. Sei italiano, il portale di funghi. Stai salvando una principessa. Più o meno. Ci abbiamo provato. Letteralmente, cazzo, Bianic! Eh sì, è quella cosa. Ci è pure uscito da un tubo, mi sembra. È vero. Vabbè, ragazzi. Sta il nuovo placeholder di Lieto è Super Mario. Super Mario. e adoro tantissimo questa cosa. E... io nello specifico ero alla ricerca di My Estranged Father e ho trovato il gruppo con cui si avventurava e da lì sono state un po' di disavventure legate alla nuova peste. Ok, quindi sapete qualcosa della peste che io non so, immagino. E sto cercando di ricordarmi cosa ricorda Lieto della peste, che Lieto essendo arrivato dopo... Ha raccontato tutto, eh. Tutto. Ah, non guardi me, io non ne so niente. So per certo che la peste è causata dalle... quasi per certo che la peste è causata dalle centrali. Dalle centrali? Posso chiederti in che modo? Questa è un'ottima domanda che meriterebbe un'ottima risposta e... che non sappiamo ancora in realtà. Ci lavoreremo su questa cosa. E siamo alla ricerca di una cura perché uno delle persone che dovrebbe essere passata prima da queste parti è stata nuovamente infettata. Lo cane lì. Questo spiega alcune cose. Ah, quindi hai visto qualcuno che risponda a questa descrizione? Direi di sì. Bene, bene. Questo tempio è molto antico e ha diversi segreti, come immaginerete, ma ci sono delle usanze che ci tengo a mantenere. Se fate saranno mantenute. Se fate un'offerta in denaro alla dea, vi farò passare. Ah, e ho già lasciato un malapenny nella cosa, guardi. Tu cosa? Ho lasciato un malapenny nella cesta. Un malapenny. Malapenny, sì. Cioè, con delle cose di valore, io c'ho il suo malapenny. Alla dea. Alla dea, sì. Boh, non so, è più per voi che è la dea. La signora si sta sfregando le palpebre. Ed è tipo... È un problema? È un problema. Sì, se è un problema lo vado a togliere. Non c'è... Quello sarebbe un problema più grave. Più grave, dice lei. Ok. Quindi se aggiungo tipo 2 monete per la dea? Forse non dovrebbero fare degli strumenti così problematici della stessa forma delle monete. Forse dovrebbe esserci un cartello con su scritto che i manapenni lì dentro non debbono essere messi. Concordo sulla cosa dei manapenni. In genere la gente ha buon senso a sufficienza da non farlo. O forse non arriva più così tanta gente ai tempi a offrire soldi. È anche vero. Anche se giudicare dalla cassetta delle offerte fuori sembra che qualcosa sia cambiato. Sì, un signore è passato a fare delle grandi offerte stamattina. Un signore? Non gliel'ho chiesto. Era vestito? Esatto. Sì, una tunica azzurra. Ah, era il nostro amico lui. Vedo che è stato molto generoso. Sì, suppongo. Quindi, devo mettere delle monete o... Cioè, come funziona? Credo che ormai il danno sia fatto. È vita di peggiorare la stazione. Capisco. Mi disp, nel caso. Possa dire temo di avere solo dei malapenni con me. Accettate qualcos'altro? Ho delle pellicce, se vuole. No che non le hai. È successo prima no. Di... No. Ha riavvolto il tempo fino a che non siete arrivati in città e quando avete reincontrato la Nutria è scappata. Giusto! Davvero! Cosa, sì. No, l'abbiamo le Nutrie. Vabbè. Questo potrebbe andare bene. No, però la staff e la merda ce l'abbiamo ancora. Sì, la staff e la merda ce l'avete. Potete dare quello. La mia fiaschetta è ancora piena. Ancora piena. No fucking way. Let's go. Allora anche alle cose cattive succedono le cose belle. Posso offrirle un goccio di liquore se vuole. Non bevo durante il servizio. È una persona complessa. Hai visto? Io non so di preciso quale sia il vostro scopo, cos'è che vi porti qua, ma non mi sembra che abbiate a cuore la vostra incolumità. Per cui preferirei che ve ne andaste via il prima possibile. In realtà al momento il nostro intento non è neanche scendere giù e andare a recuperare quei due, quindi se possiamo Cioè, trovare una dove sono andati gli altri due? Lo sa se via sono di andati, sono incontro. scesi di sotto? La signora, che non aveva fatto in tempo a riprendere in mano il libro che stava leggendo, semplicemente si incammina verso il fondo della chiesa, del tempio, e con un movimento delle braccia fa comparire non dico una porta, comunque un'apertura nel muro, che si spalanca e rivela delle scale che scendono. Sono scesi. Ok. E grazie. Per In bocca al lei lupo. va bene se scendiamo anche noi? Sì, l'offerta è stata fatta. Togliti una. Staff dovrebbe averci un numero a fianco. Toglici uno dal numero a fianco. C'ho Sì, si togli uno ed è l'obolo che hai versato. 8. Ok. Ok, provo a farvi questa descrizione, poi aspettiamo Sara che dovrebbe esserci. Scendete le scale, sono più o meno come ve le ricordate, ci sono dei dettagli che invece vi sembrano nuovi, ovvero che sui muri, forse ve li ricordate, non so, tutte le mura che costituiscono questa scalinata, ci sono infilzate delle aste di metallo. Normalmente non ci avreste fatto caso, ma avendocene una in mano, notate che sono pressoché identiche alla meridiana che avete con voi. Ok. Però sono infilzate, e a giudicare da quanto è lunga la meridiana e quanto poco esce fuori, queste cose sono conficcate nella roccia per tantissimo. Per il resto, gli scalini sono abbastanza grandi, sono di un materiale bianco in origine, ma che ormai, a forza di stare sottoterra e forse anche a forza di essere calpestato, è rovinato e più ingrigito. Cioè, quindi le meridiane escono fuori dalle pareti, Sì, in praticamente. tutte le direzioni, cioè a parte dal soffitto e dal pavimento, in quasi Dalla tutte le parte delle direzioni. spine. Sì. Cioè, come se fossero delle spine. Ma. A cazzo, proprio disposte a cazzo, senza nessuna logica evidente. Cioè, guardando la pietra, sembra quasi che come se la. Cioè, la pietra fosse stata cresciuta attorno alla meridiana. Oppure Allora, sono proprio come se sembrassero conficcate. è innaturale il fatto che escano fuori così, cioè sicuramente quella cosa non è naturale. Ora, capire se c'è qualcosa alla fine e l'hanno seppellite può essere. L'alternativa è che qualcuno abbia scavato un buco nella pietra, ce l'abbia infilata dentro e poi l'abbia ricoperta, cioè abbia, come si Sì, dice, fatto collassare la parte in alto per pressarle in quella posizione. È un lavoro chiaramente voluto. Poi che sia intervenuta ah, la ok, non magia. sono randomiche, cioè sono hanno un certo disposizione ordinata. No, sembrano disposte a caso. È voluto il fatto che queste Ah, cose ce l'ha ok. messe lì qualcuno. Cioè non è possibile che siano spuntate dalla terra. Ok. Un'idea che puoi avere magari è che fossero disposte in ordine, è collassato il soffitto e le ha sepolte in modo a caso, e poi quando hanno scavato le scale, che comunque le scale devono averle scavate, quantomeno la galleria in cui state passando, sono riemerse un pochino. Spiegherebbe il percorso serpeggiante delle scale, fino ad arrivare all'ultima area, che è un lungo corridoio che va dritto. Se non volete fare niente, vi descrivo l'ultima area. Ditemi voi. No, io continuo a scendere. Lieto? Continuo ad andare avanti. E On Closer Inspection sono letteralmente l'asta che possiedo già. Sono praticamente identiche, sì. Praticamente identiche. Andiamo avanti, direi. Dici che l'ha presa da qua? O l'ha presa da qui o significa qualcosa per lui? Beh, bene. C'è un buco nel muro. È chiaramente una meridiana, quindi stava Arturo, Arturo. Una meridiana, però qua il sole non c'è, quindi... Dici che c'è un buco nel muro da qualche parte qua dove possiamo infilarlo? Può darsi, proviamo a tenere gli occhi aperti se vediamo... È buio pesto. Non abbiamo luce, no, infatti. Sta andando praticamente a tentoni. Ok, e then we make light. Vedere con quale mana. Con un vulcano. Cosa? Voglio vedere con quale mana lo paghi. Questa è un'ottima domanda, con quale mano lo paghi? Hai visto? Allora, Thundercall fa... Cosa, beh, sì. Suppongo di sì, credo che il problema sia il solito. Con un mana penny. No, non puoi posso... No. Puoi castare solo lama istantanea col mana penny. Col mana penny e basta, ok. Solo le T0. Vai, faccio riflettere la luce proveniente da sopra con la lama in modo che... La roba che fa Miff con i mana penny è... Perché c'è una spell che può... Cioè la sua spell con i mana penny è diversa. Vabbè, ho una... Ho sicuramente della carta, ho una tonaca. E un'arma da fuoco. Che però è magica, quindi spara... Che però è magica? Sì, spara morte. No, vabbè. Però scalda? No. No, ok, cioè... Ma neanche una pistola normale se scalda illumina, cioè. No, però la puoi usare per accendere qualcosa. Ah, beh, sì. Che sarebbe okay. Diventata la tunica come fiaccola, tipo. Poi secondo me, cioè, non c'è bisogno. No, voglio riuscire a fare la luce senza niente. Allora, andiamo a vedere se becchiamo gli altri e poi torniamo indietro. Vero, andiamo. Sempre se non finiamo di nuovo 40 minuti nel passato. 40 minuti nel passato che ti ricordi in realtà a quanto pare diverse settimane. Sì, no, certo, vabbè, ma sono quelli che danno fastidio, cioè, sono... l'altro se non ti ricordi non ti ricordi effettivamente, cioè, non è un problema. Giusto e vi propongo di fare pausa ora e poi tiriamo dritto finché non chiudiamo. Va così bene, tra poco dovrebbe arrivare Sara e posso fare la scena con Mif e Adone. Yes. Se avete dei commenti cattivi da fare, fateli. No, quanto odio Sara. No, posso lamentarmi di una cosa, effettivamente? Vai. Posso? Vai. Allora, vai. Io voglio bene a Sara. Le voglio un bene dell'anima. Lei... Noi stiamo facendo due campagne come minimo assieme. Forse potremmo fare un'altra. Cosa succede? Ieri dice... Sì, ragazzi, io mi sono iscritto a questo corso di arti marziali, non mi ricordo, dico karate, ma non è karate, okay? Sì, mi sono iscritto a questo corso di karate, quindi arriverò non prima delle 9:30. Bene. E che giorni? Tutti i giorni, fino a sabato, da lunedì a sabato, lì. Che cazzo di... Ma, a parte quello, cioè, Dio mio, nel senso, buon per lei, però dico, porco cane, cioè... Non è possibile tutti i giorni, che cazzo di corso è? Cioè quando facevo karate c'era una volta a settimana, tipo. Ma appunto, io dico, ma che cazzo di corso fai? 3-4 volte a settimana al massimo, proprio. Deve andare alle Olimpiadi. Ma cazzo è tu? Ma a parte che gli dico, ma bro, tutti i giorni, uno muori, due, cioè, non sei abituata adesso. Cioè, non è il punto che non è atletica, proprio, cioè, secondo me ti spacchi le gambe, il corpo, se passi da non fare un cazzo a... tutti i giorni arti marziali. Cioè, la mia modesta opinione Opinione. Ma strano, anche a me che fa strano. Il maestro faccia così tante le lezioni durante la settimana. Anche perché generalmente... Ma infatti, vi giuro. Cioè, il maestro lavora tutta la settimana, ok? Ma generalmente si sposta di paese in paese, da città in città e prende gruppi diversi, quindi è strano che, tipo... capito? Comunque se stai in una città sola divide le lezioni in base alla settimana. Appunto. È curioso. Boh. Vabbè. Cioè, credo che sia quello il motivo per cui, appunto, non c'è stasera. Sì, sì, sì. E boh, basta, gli dicevo, se volete andare da qualche parte, in bagno, a bere, a mangiare, fatelo. Vi do la benedizione. Io sto facendo una sessione di bricolage al momento. Certo, Eddie, ovvio che stai facendo una sessione di bricolage. Scemo io non averlo intuito. È che tipo sto sistemando camera e c'ho dei disegni da appendere che ho detto no basta, ho iniziato oggi, lo devo finire oggi, altrimenti non lo faccio mai più, mai più, e quindi ho un tempo limite di stasera. Okay. Ah, non ti li ho mandati, ti ho fatto vedere l'altro giorno, sono uscito con questo mio amico, abbiamo disegnato i nostri EC a vicenda. Sì, vuoi vedere quelli? Ah, allora sono pazzo. No, non mi hai fatto vedere quelli che hai fatto tu, mi hai fatto vedere quelli che ha fatto lui, ma non il contrario. Ah, ti faccio, te li mando. La verità sono pretty proud, ma semplicemente perché dico, wow, delle cose che non fanno completamente cagare. E soprattutto, oh mio Dio, ho disegnato. Vabbè, le foto me le ha girate come cazzo vuole la fotocamera, però tieni, te l'ho mandato su Telegram. Yay! E a noi niente. Sì, ho visto che te l'ha girata come cazzo gli pare a lui. Cioè, te lo stesso gusto, infatti, no, di personaggi, Ma... Vero? Vero? Ma sì, è che i suoi sono molto più astratti dei miei. Cioè, ti dico di sì, ma però no. Cioè, ho capito cosa intendi. Ma quale? Com'è possibile che un personaggio sia più astratto di Giocondo? Ma no, ma Giocondo è... Ma perché Giocondo è tipo, ce l'ha una storia. C'ha... Cioè, non so come spiegarlo. Ah, astratto di Giocondo. Ho capito. No, pensavo che ci sia astratti di estetica. Sì. No, sì, di estetica, cioè ovviamente il suo stile è molto più astratto e stilizzato del mio, ma no, in fatto di estetica metti che sì, sì, è molto, siamo molto vicini, infatti amo i suoi disegni, però no, in fatto di storia, cioè fai conto che tipo, cioè allora, io do dei nomi strani, però Nebbia, Pinna, Cane, Clown, non li ho, cioè quelli sono i nomi dei personaggi, non sono, sono proprio i nomi dei personaggi. Io il massimo che ho fatto è stato Giocondo e Gaio, cioè parliamone. Sì. Che non lo dico come cosa negativa, è una cosa però. Sì, sì. Sarei figa. Sarei piaciuto cosa? Il personaggio di Giocondo, si scopa tutto ciò che si muove e o che respira. E o. E o. Dai. Dimmi che non è vero. Dai, gli ho dato... Gli ho dato profondità. E che non... Dicevi, Os. Hanno completamente rovinato il design di un personaggio di Zelles che volevo pullare e adesso mi girano i coglioni. Madonna, mi spiace. Ho detto qua in chat. Quello a destra è il nuovo design e per me è, cioè, la perdita più grande dell'umanità. Arriva in chat adesso, in the slums. Grazie in chat per il mio invio. Madonna, che schifo. Madonna, bea. No. Fra questo, scusatemi, apro una parentesi, io non ce la faccio con la Miolio, perché pur di fare delle tette e culi di fuori rovinano il character design, non è questione di gooning, non è questione di fanservice, è proprio questione di character design, mi fa incazzare sta roba. Secondo me Zelles c'ha anche tra i design migliori, tra le robe di Miolio, perché cioè, quelli di Genshin sono completamente andati a puttane, sono diventati estremamente noiosi, quelli di Yonkai sono molto simili a quelli di Zell, sono un pochino più vari, però lo streetwear di Zell secondo me è quello migliore, però se fanno pullano fuori queste cazzate qua, di buono, cioè andava bene, cioè era Gunin molto modesto, cioè secondo me andava bene prima, non però so era, ma è anche più bello, scusami, posso dire, è molto più bello e sessuale quello di sinistra. Ciao Sara. Ma ciao. Cioè, anche perché oggettivamente questa qua è vestita, ma ti lascia lo spacco sotto per far vedere l'underboob. Dai, quanto devi essere freaky. L'altra tipa, boh, si è messa su un top. Ok. Ma sì, ma poi il top di merda ce l'ha tipo mezzo mondo su quel gioco, quindi c'è... Ma infatti... Non lo so, le ultime scelte che stanno facendo per quanto riguarda i design, c'è anche tipo Seed che è uscita, che c'è adesso. Seed è la prima volta, praticamente Seed combatte che c'ha un mech, sostanzialmente. Sì. Il fatto che tipo la prima volta che l'hanno annunciata hanno fatto vedere solo il mech, e quindi ho detto, ah beh, Poggers, figo che finalmente si gioca con un mech, e poi l'hanno fatta vedere, tipo... Ti pella con i piedi di fuori, inquadratura vabbè. Dei piedi ogni volta. E poi ogni tanto mentre combatte c'è pure il mech. A me quella roba ha fatto troppo girare i coglioni, perché a me, per me va bene le robe di Gunning, le accetto volentieri. Però non mi prendere per il culo. Cioè, se io volevo il mech, volevo giocare con mech, invece ho la tipella con i piedi di fuori. non la voglio. Cioè, non, se la voglio pullare sulla tipella con i piedi di fuori, mi aspettavo la tipella con i piedi di fuori. Non mi aspettavo la tipella con i piedi di fuori, perché non me l'hai annunciata così. Mi girano i coglioni e non ci pullo. C'è adesso mi devo rovinare pure Lucia con le falle poppone giganti quando c'avevo le zinne piccole, mi andava bene con le zinne piccole, invece adesso c'è le poppone giganti come tutto il resto del cast di Zelda. Sì, ma guarda, io sono mega d'accordo. Ciao Sara, scusa, mi stavamo aspettando, siamo per sbaglio partiti in una tangente. Buonasera, scusate per il ritardo. DW. No, non si ritorno, noi siamo partiti 45 minuti prima. Ah, we no. Did. We actually did that. E... A 20 alle 9 siamo partiti, sì. Rialzati. Ok. 50 minuti prima. Again. Ok, ti faccio il recap che ho già fatto agli altri, lo rifaccio anche a te. A quanto pare avete la sensazione che il tempo sia stato riavvolto. Vi ripercipitate nei luoghi dove avete incontrato Kronos, vi dividete in due gruppi. Il primo va nel luogo dove l'avete incontrato per la prima volta, cioè alle pendici della montagnetta, e l'altra metà del gruppo va verso il tempio, che è l'ultimo luogo dove l'avete incontrato per quanto vi ricordate. Che bello, sto chiasmo. Ovviamente voi non sapete cosa hanno fatto gli altri, voi vi ricordate solamente che siete arrivati al tempio. Tu hai detto delle parole magiche alla signora che ti ha aperto la porta e vi ha fatto entrare nella zona segreta del tempio. Siete arrivati in fondo, avete scavato un pochino per terra e siete entrati dentro al tempio. Ora, ripartiamo di qua. Ripartiamo dal punto in cui decidete chi dei due entra. Se non sbaglio, io ho un ricordo molto vago. Io mi ricordo che col fatto che Mif aveva scavato fino a lì, sarebbe entrata poi. Cioè, mi sembra la cosa più logica. Nel senso, vedo il buco davanti, poi mi getto a capofitto, nel senso. Adone, scusatemi perché non mi ricordo veramente. Adone era dietro di te, era nel buco con te, non mi ricordo bene dove era. Non l'abbiamo specificato questo. Ok. Ti rifaccio la scena se ti serve. Sì, grazie. Galleria, c'è una galleria che arriva al tempio. Il tempio è un cubo di marmo, mezzo sepolto dalla terra. E l'esterno, cioè l'entrata è coperta in modo che non ci si può passare. L'avete un po' scavata. L'ha scavata Mif usando una spell che la fa andare in berserk. E tu gli hai castato la spell che aumenta la sua forza fisica. Sì. E eri dietro di lei a una distanza di sicurezza. Ok. Quando Mif ha finito di scavare, senza dirti un cazzo, lei prende e scende. E tu rimani nell'oscurità poi, perché è buio pesto sto posto. Credo che Adone un po' lentamente stia iniziando a raggiungerla, perché più che altro non vuole rimanere da solo. Dice, Mif, aspettami! E tanto ovviamente Mif sta entrando, quindi buonanotte. Ok. Entrate e... Ora io lo mando solo a voi due. Poi dopo lo giriamo anche agli altri. Okay. L'interno, come vi dicevo, è un cubo di marmo. Quindi scavato all'interno ed è un altro cubo perfetto dentro. La terra, per motivi che non vi sono chiarissimi, ha sporcato solamente l'entrata, cioè dove l'avete sporcata voi. Per il resto sembra che la terra non fosse entrata all'interno del tempio. Ci sono tre pareti piene e una parete, che è quella a cui siete entrata, che invece ha una porta. Sulla parete della porta ci sono delle decorazioni intorno alla porta stessa e al muro. Mi seguite? Sì. Le decorazioni sì. Hanno motivi quadrati, simbologie che richiamano cose con il 4, quindi quadrati, tetraedri, 4 gruppi di oggetti, cose del genere. Non sembrano avere alcun significato particolare, cioè sono solo decorativi, infatti sono motivi che si ripetono. E questo è in tutto il tempio, cioè ovunque ci sia un lato c'è questa cosa qua, sullo stipite della porta, ma anche sul bordo del muro, su dove si connettono i due muri, eccetera. Poi ci sono 3 pareti, una davanti a voi, una a sinistra e una a destra. Ognuna delle pareti ha un'incisione molto spessa, e ciascuna di queste incisioni intorno è come se fosse una finestra. All'interno della finestra c'è l'incisione e intorno ci sono le decorazioni con lo stesso motivo che c'è fuori. Spero di avervi comunicato bene com'è il tempio. Ok. Ci siamo? Sì. Ok. Sì. Al centro di tutta questa roba c'è un altare cubico, per un cubo perfetto, 1 metro di lato. Ok. Ditemi cosa volete vedere prima. Ci sono 3, quindi ricapitolando. 3 pareti con delle incisioni e il cubo al centro. E che vi devo mandare delle cose, quindi ditemi una per una cosa. Ok, certo. Adone guarda Mif e dice... vuoi dare un'occhiata al cubo? Sì, sì, penso proprio di sì. Ok. Vedi che intanto si sistema i capelli, perché prima era andata in Berserk. Adone ti sistema una ciocca. Perché è comunque Mif ti fulmina in questo momento. Gli stessi fulmini con cui hai fulminato lei. Non mi toccare. Alza le mani. Grazie. D'accordo. Niente. Il cubo è un blocco di marmo perfetto. Cioè, è quasi naturale quanto sia perfetto. Il resto dell'edificio è pieno di crepe, è rovinato, ha i segni del tempo. L'altare invece è in qualche modo immune. E i lati sono smussati, ma anche questi in modo preciso, cioè come se uno strumento molto raffinato avesse fatto delle limature in modo da evitare di avere degli spigoli acuminati. Ci sono 4 incisioni, una su ciascun lato, posta sopra, cioè a pochi centimetri dal bordo superiore. Le 4 incisioni sono 4 simboli. Questi secondo me li posso fare su Roll20. Oh cazzo, devo accedere al Roll20. Datemi un attimo. Sì, sì. Cazzo, ok. No, mi serve il bianco perché lo schermo è nero. Troppo grande. Allora, dimmi che funziona, che non ci voglio disegnare. Funziona, sono fighissimo, sono la persona più figa del mondo, maybe ever. E ne rimane uno, che è questo. Cerco di riempire così in modo punk. Ok. Chiaro come sono fatti i simboli? Sono... questi 4, sì, sì. Ok? Uno sono a colori invertiti, cioè uno è interamente nero, uno è interamente bianco, uno è mezzo bianco e mezzo nero, sì. E uno ha 2 linee, cioè, sarebbe interamente bianco ma 2 linee nere, poi non è nero e bianco, è inciso o non è inciso, ha 2 linee incise a metà. Queste sono le... cioè è un cubo, quindi su questa faccia... in alto c'ha questa incisione, ruoti, questa faccia in alto c'è l'incisione, ruoti. Ok, perfetto. Ditemi voi cosa volete fare. Smith non si ricorda di aver visto questi in particolare. No. Infatti. Beh, Adone veramente... un attimo, la spallucce della serie. Io questi non li ho mai visti. Adone vuole stupidamente provare a percepire se sente, nel caso che magia sente, provenire da questi simboli? Se si percepisce qualcosa. Non ti faccio rollare perché queste sono incisioni. Non c'è nulla di magico. Ok, faccio una domanda stupida. Non credo che Adone sappia nulla al riguardo, cioè, dei suoi studi. Cioè, se vuoi fare un roll su questa cosa, lo puoi fare il roll. Cioè, te lo concedo. Posso? Sì. Se magari ha visto qualcosa. Cioè, comunque, ripeto, dovrebbe aver studiato qualcosa di magia antica. Magari gli ricorda qualcosa. Dammi solo un secondo e ti dico l'argomento. Ok. Fai su scienza. Ok, su scienza. Allora, siamo di 10 su scienza. Ok, quindi ho fatto 10. Sì. Meta, cosa ti ricordano quei simboli? Allora, a me due cose, il tempo e gli elementi tipo aria, acqua, fuoco, come vengono rappresentati in alchimia. La stessa cosa ad Adone, nel senso che i due elementi con la linea in alchimia sono, mi sembra, aria e fuoco. Mi sembra aria fuoco. E fuoco. Sì, sì, perché acqua e terra sono triangoli e basta. Esatto. Quindi quella cosa lì. Gli altri due simboli potrebbero essere quelli, come si dice, complementari. Certo. In alternativa può essere una clessidra. Per il resto non sembrano avere un simbolismo particolare. Sono tutti dritti, eh? Cioè, qua sono ruotati per farvi capire come sono messi, ma sono tutti straight. Ah, ok, giusto, sì, sì. Non sono ruotati in 90 gradi. Sono tutte delle clessidre. Posso chiamarle clessidre visto che hai rollato decentemente. Ok. Aggiungo una cosa per i meme, altrimenti la pasta, le farfalle. Le farfalle. La miglior pasta. Team io farfalle. Sono un fusilli boy. No. Fusilli. Mamma mia, mi piacciono le pinne perché sono dritte. No, fra, io i fusilli me li ficcherei super la figa, altro che. Eccoci qua. Sono un grande fan delle penne e delle mezze penne, io. Grande os. No, le penne no. Penne supreme. Io sono... Io sono un negro glutinoso, quindi in realtà mangio tutta la pasta. Vabbè, non serviva. Posso dire che non serviva. Io non avevo capito il concetto prima che lo dicesse in questo modo. Andava detto. Andava detto. Bene. E voi leguminosi... Ok, aspettiamo, continuiamo. Cosa vogliono fare Lieto e Mif? No, ma che cazzo dici, dai! Non voglio fare Adone Mif, I beg your pardon. Ok. Ammazzami il personaggio a sto punto. No, non sei così fortunato. Oh mio Dio. Mif banalmente, cioè, tocca l'altare. È un altare... Cioè, ci passa tipo le dita sopra, insomma. È un altare freddo, di marmo. Non lo so. Tecnicamente probabilmente dobbiamo fare qualcosa, magari c'è un enigma da risolvere, di solito. Quindi sarebbe da studiare la stanza, non so se ne vale la pena però. Non saprei, ha intenzione di metterti, di comunicare, di provare a comunicare con Arva? Beh, l'ultima volta non è andata molto bene, nel senso che c'era un corpo da sacrificare, o quattro persone che dovevano compiere il coso, come si chiama? Oddio, il rituale? E mi pare anche con un segno zodiacale particolare. Di che segno sei, Adone? Bellissima domanda! Non te lo ricordi? No, non dice così Adone! Okay. No! Non me lo ricordo, so solo che sei so del solo diavolo. Parocco di merda. È quello. Ah, ma è quello effettivamente. Ah, allora no, allora me lo ricordavo bene. E allora Adone dice... Cioè, lo vedi che un attimo tentenna e poi con un po' di imbarazzo dice... Il diavolo. No. La scorsa volta eravamo quattro del mondo. Ah. non so se... Non mi, onestamente non mi ricordo se fosse correlato o meno. Perché è Sara che non si ricorda, ma facciamo che anche Mif non si ricordi. Sì, dai. È tutto più interessante. Role playing queen. Esatto. No, quindi... mamma, sto ancora giocando. Scusa. Che deve essere, sei impazzito e stai parlando da solo se stavi giocando? No, no. Finalmente è finito. Quindi sì, mi si incrocia le braccia e fa spallucce. Ti dice, se non vedi nessun'altra cosa che magari ti attira lo sguardo, tanto vale aspettare gli altri e pensare a un modo come ripagare la signora che ci ha fatto gentilmente passare. Devo ancora capire cosa significhi che è arrivato il suo momento con le parole che lei mi ha chiesto di dirle. Sarà interessante. Sempre molto rassicuranti questa cosa misteriosa. Sì, direi che a questo punto conviene tornare su. Che buco nell'acqua. Vabbè. Oh, nella pietra. In canone ci avete messo molto di più perché avete impiegato un botto di tempo a fare gli scalini, voi due bambini vittoriani. Vabbè. Dai! E anche a, anche a scavare, a fare le robe, ci avete messo molto più tempo i loro due. Tant'è che quando tornate indietro dal tempio, vedete gli altri due che stanno già scendendo. Cioè, sentite i passi. Ok. Aspettatemi un nanosecondo che mi collego dal computer. Certo. Bene ragazzi, andiamo avanti e... The last evil person in the room. Ciao Eddie, ci senti? Sì sì, certo. Bello. Ok, perfetto. Cosa non abbiamo detto su di te quando non c'eri? Esatto. Peste 10 corno. Secondi? Vabbè. Ma le corna ce l'ha già, con le cuffie. Sono stati 10 secondi molto intensi. Peste and corns. Siete voi quattro nella galleria. Ma ci hanno chiamato, ci stanno solo seguendo. Esatto. No, no, no, ci stanno seguendo. Voi siete arrivati e avete incontrato loro. Ok. Ci siamo un po' scontrati nel... Con Mif che fa luce. Esatto. Con Mif che... Ah, già tornati. Ditemi che avete trovato Kronos. Sarebbe con loro se l'avessero trovato. Non trovi, Adone. Tipo, Mif... Cioè, he has enough. Non abbiamo... Abbiamo trovato una lettera da parte di... E di che... Kronos. Nibel ti sta fissando in questo momento. È successo? E tipo si gira lentamente verso il lieto. Possono essere passati molti più giorni di quanti non ce ne ricordiamo, probabilmente. Cosa? Ovvero? Quanto tempo è passato? Abbiamo avuto un'avventura abbastanza lunga con... Non c'è scritto quanto tempo effettivo abbiamo passato, però si evince che almeno passami la lettera giorni... dietro. Leggila. Però... Leggila a voce alta. Andone. Vai, vai. Andone. Ok, perfetto. Vabbè. Cari compagni, vi ringrazio per le settimane che abbiamo passato assieme e per avermi educato al vostro mondo. Alla fine, contro le vostre opinioni, ho deciso di tornare indietro e di non lasciarvi creare quel futuro che abbiamo vissuto insieme. Come in ogni tragedia, so che ogni mia previsione sarà una condanna per voi, per cui cercherò di dirvi il meno possibile, nella speranza che cambiate effettivamente il futuro. Qua Adone ha un'espressione un po' confusa. Il piano di Nibel è fallito. Non abbiamo risolto nessuno dei problemi, reso felice soltanto Herioz, rimpinguando le sue legioni. La soddisfazione della vendetta è durata ben poco. E vedi che Adone alza un attimo lo sguardo verso di te, Nibel, e poi torna a leggere. Subito soppiantata dai rimpianti e dalla disperazione di un'esistenza da mostro. So che non vorresti niente di più che sapere di chi vendicarti, ma ti esorto a cercare Aphros al suo posto. Regalo a Lieto e Adone la possibilità di dialogare con Klopp per chiederle più tempo prima di incontrare Arioz. Temo che il loro percorso sia inciso nella pietra, eppure spero che troveranno un modo per deviarlo. L'imitazione, d'altronde, è una forma di venerazione e credo che ormai abbiamo concluso che non sia questa la soluzione. Non tentate quindi di raggiungere il bambino ad Azmea se non volete finire come lui. Mif, infine, aveva raggiunto Yelos e ottenuto il posto che le spetta da contratto. Eppure, io credo che non sia questo a farla felice, per cui le tendo un'ultima volta la mano. Roina lo sapeva bene, per chi va a caccia di lei troverà soltanto la casa di Arioz. Il cosmo, abbiamo appurato, ha i suoi metodi per conservarsi, ma quello che conserva non ha niente a che fare con noi. Ormai mi chiaro, niente di quello che posso fare aiuterà nessuno al mondo e per questo me ne vado. Andrò verso sud, dove si diceva che nessuno che sia partito poi sia mai tornato. Vi prego di non cercarmi, oppure mi obbligherete a diventare l'ennesimo ingranaggio nella macchina cosmica, e io, sinceramente, non voglio più avere niente di artificiale. Chiamerete il re Vorace, ne sono certo, portategli i miei saluti, ma ditegli che rimpiango i tatuaggi, che mi hanno portato tanto dolore e poco onore. Adore tira sullo sguardo adesso e guarda tutti abbastanza confuso e sorpreso anche, soprattutto. Dì la verità, hai capito un quarto di quello che c'è scritto? Vabbè, figa, chiaramente, fuffo, anche okay. Perché... Domanda, ascolo... dov'è questa cazzo di lettera che io non ce l'ho? È su Facebook. Non... Su no. Sul canale sul server. Su Discord. Canale testuale di Discord. Oh, grazie, non me l'aveva caricata. Scusa. Scusa. Vabbè, almeno, allora è stato utile, almeno. Allora effettivamente hai seguito quello che dicevo. Sì, ho seguito quello che hai detto. No, Adone... Poi comunque Adone ti passa la lettera, così se vuoi anche leggerla proprio te, la rileggi. Mm-hmm. E poi dice... Quindi abbiamo passato del tempo con... Qua Kronos dice settimane più che giorni. Sì, una quantità di tempo che non ci saremmo dovuti dimenticare, mettiamola così. No, chiaramente. Quindi voi siete già scesi, state scendendo? Cosa c'è di bello? C'è il tempio di Arba e sicuramente i suoi soliti giochetti. Vedi che un uomo abbia degli hobby, Sara, se devi far così, esatto. Che cazzo. Vedete, visto per la prima volta un po' triste, cioè ha un'espressione un po'... Non dico lugubre, però quasi malinconica. Ripiega la lettera, la porge a Nibel e fa, se volete potete andare a dare un'occhiata. Penso che il re Vorace sia Arba, alla fine. Insomma, per evocarlo ve l'ho già detto come si fa. Ma ci aveva detto che non era necessario ammazzare la gente, bastava solo fare l'indovinello. Per una persona come lui? Però magari semplicemente... yes. Vabbè, andiamo a vedere questo bel indovinello. Cioè, Lieto vuole andare a vederlo. Lieto, ho scavato una buca. Troverai un buco più avanti, fa attenzione. Vuoi fare che ci cada dentro, per favore? Enorme, cioè non lo metterà nell'inventario la lettera? Se vuoi sì, puoi anche distruggerla a sto punto. No, tienla. Ma ormai l'ha letta, quindi. Però vedi che... Punterà a distruggerla prima che la leggessero. Sei l'unica con la luce. Ah, giusto. Fatete la buco, Lieto. Se ti do un malapenny me lo accendi anche a me. Ah, vieni qua, dai. Grazie. Chi è tua madre? Fa passione, esatto, fa passione tormentata. Vai figlio, rendimi fiera. Vabbè. Ok, siamo alla parte che preferiamo della serata e con preferiamo intendo dire io. Quella in cui Ika sta per addentare il puzzle. Sì. Sei dentro un cubo di marmo, come stavo dicendo. Sono dentro un cubo di marmo, perfettamente cubico, se non ho sentito male. Perfettamente cubico. Il lato è di 8 metri, all'esterno, quindi all'interno saranno 7, 6,5, non lo so. Vabbè. Un muro abbastanza spesso. Ci Dico, sono la l'hai fatto preciso. Sì. Ci sono le descrizioni che ho fatto prima loro, quindi non le sto a rifare. L'altare al centro e 3 affreschi che loro non hanno neanche guardato di striscio. 3 incisioni. Stai voi gli affreschi, I guess, a questo punto. Quale guardi per primo? Il più vicino all'ingresso, I guess. Ce ne sono 2 equidistanti all'ingresso, che sono quello a sinistra e quello a destra. Quello sono a destra. Destra. Non si va mai a sinistra. Io li metto su coso. Su Telegram. Scende con lieto. Sì, sì, prima... Ah, ok. Mif chiede a Nibel se si vuole unire. Sì. Va bene, al momento... Vedi che Nibel al momento è un po' pensieroso. Ok. Dopo aver letto la lettera, sta ancora cercando di capire cosa fare con le informazioni che ha ottenuto. E dietro osserva, tipo, l'affresco. Guarda, quindi un minuto, due... Ah, i tossici devono essere entrati qua dentro. Ok, guardiamo l'altro. Sinistra o dritto? Adone, scusatemi, Adone vorrebbe parlare un attimo con Nibel, ma magari lo facciamo dopo, intanto... Come vuoi. Non voglio interrompere il flow. Sinistra o dritto? Sinistra. Però ci arrivo girando da destra. Oh, è un affresco, cioè ti giri il collo e lo vedi. Cioè fai una piruetta, per me vuoi fare quello che vuoi. Sì, sì, una piruetta, faccio. Ok. Sì, Lieto è sempre più convinto che siano entrati dei tossici nel tempo in cui noi siamo tipo... Abbiamo camminato fino qua. L'ultimo. Vado anche all'ultimo affresco. Ok. Guardate dei pittogrammi. Proprio loro. Damn. Ma che... Io ti giuro! E sono anche le incisioni che sono disegnate sull'altare. Sì. Ok. Ok. Ottimo! Il puzzle è quasi risolto! Quasi risolto! Ah, vaffanculo! Se ci propinquiamo alle incisioni, possono essere spostate spingendole, tirandole? No. Estremamente rigido. L'unica cosa che non ti ho descritto nel dettaglio è che il muro è molto vecchio, quindi è pieno di crepe. Però cioè, si capisce cos'è un'incisione e cos'è una crepa, perché le incisioni sono molto dritte e molto profonde, mentre le crepe sono tutte ramificate e poco profonde. Profonde non credo sia il termine giusto, intendo dire poco spesse. Ok. E... sto cazzo tipo una delle incisioni col dito. Noti che nel corrispondenza dell'incisione il muro è stato tagliato per formare una conca precisissima. Cioè... Nel muro? Sì. Okay. Sì, sì, sì, proprio inciso così. Okay. E rivaleggia con gli strumenti moderni. Tuttavia, il fatto che ci siano crepe, che questa struttura sia sotto un una chiesa di 2000 anni, è strano. Quanto è grande la conca? E pochi centimetri, cioè abbastanza da fare un'incisione che si vede dall'entrata. Quindi 2-3 centimetri, nel punto più spesso. È come fosse un semicerchio, diciamo. Ok, ok. Non farò la battuta che stavo per fare. Sono certo. Le parti nere sono tipo plateau, nel senso c'è l'incisione e raggiunto il punto più basso, continua così in tutta la parte nera. Ok. Quindi non è che scava una semisfera. Non sembra tipo un socket per una sfera. No, no, è al limite del socket per un piatto, perché l'incisione è spessa al massimo 3 cm. Cioè nei bordi fa la conca e una volta arrivato al punto più basso è così tutto piatto. Sembrerebbe perfetto per un monopenne. Di queste dimensioni. Un grosso monopenne. E invece sì, gli altri cerchi sono più piccoli? Le proporzioni dovrebbero essere le stesse che vi ho lasciato. Ok, ok. Perché queste cose bisogna farle la sera? Vuoi farle di mattina? Ma io non so da dove cominciare, vi giuro. Infatti, l'altra volta... Allora, bisogno di un allora, e il... Io tolgo la webcam perché mi scappa da ridere. Non voglio darvi... Perché... Punto, fine. E anche io che non sono... mi sono letteralmente distratto un secondo per rispondere a un messaggio e qua ci sono gli interi geroglifici di... Ma questo qua è, come si chiama il film di merda, Arrival, in cui ci sono gli alieni che schizzano sull'aria per comunicare. Sì. De vista, così era, non mi ricordo. Cioè, più che altro perché ci sono certi simboli che non ho il cazzo di idea di cosa possano significare, detto come va detto. Ma poi, soprattutto, cosa dobbiamo fare? Cioè... Allora, ricominciamo da capo. su Roll20 ci sono le quattro direzioni, le quattro clessidre lì, cosa sì, esatto. Indicano? Sì. Il tempo, cioè, secondo me è lo scorrere del tempo. Sull'altare, Scusami, Vianni, questo è quello che dobbiamo... No, sull'altare, questo? Sì, quelle sono sull'altare. Sono sull'altare queste? Quelle di Roll20? Okay. Sì, sono sì, agli bordi dell'altare. Ma quello che ho scritto ha senso o il cazzo? Cioè, giusto per sapere come sono orientate. Può essere, sì. Cioè, quindi quella di sinistra è orientata verso la parete che c'ha quei simboli sì. A sinistra? Sì. Ok, perfetto. A livello di orientamento del coso, quindi, cioè, visto che quella lì è quella frontale, la parte bianca, quella piena, noi ce la vediamo da sopra praticamente, cioè è invertito, cioè noi siamo sì. Da no, noi siamo da qua, allora tipo. il bianco e il nero non esiste, il bianco è dove è scavato, sì, la parte scavata è verso il pavimento, quindi no, in realtà quello in alto non è invertita, è ok dritto. Quindi sono nelle posizioni giuste, però sono nell'orientamento rispetto a noi spettatori, non rispetto ai personaggi della sì. Mappa. Ok. Scusami, ma che cosa sarebbe il... Scusami, io avevo dato per scontato, stavo ignorando i personaggi nella mappa, scusami. Sì, volevo capire che prospettiva li stanno guardando, sì, se sì, è quella sì. Dei personaggi o noi... Se vuoi flippo tutto, però, cioè, teniamolo così. No, è meglio così, era giusto per capire. Le cose nell'ultima immagine, il frontale, uh-huh. Accanto al pallino piccino in alto a sinistra, sì. Sono tante clesside quelle. Lieto è in grado di contare e riesce a contare che ce ne sono 12. Ok, sono clesside, perché noi scavediamo sì. Bene dall'immagine. Sì, okay, sì, okay, sono okay. Uguali a quella che c'è a nord nella mappa. A nord, sì. Quella che ho scritto, sì, quella a front, lei. Sì. Ok. Ok. Quindi un pallino e 12, then una stecchetta e 5 pallini? Maybe? Beh, strano che ce ne siano 5 quando era fanatico del numero 4. Era fanatico del numero 4, 12 è un multiplo di 4, 5 non lo è. Oddio, no! Ma quindi? Quante sono gli affari? A livello di struttura della settimana degli anni sono uguali alle nostre o... Sì. Ok. Non come in altre campagne. Sto free flame. Le clesside diventano più grandi e diventano, cambiano i cerchi che ci sono sopra. Sì, aumentano anche le barrettine sotto. 1, 2, 8. Ma su quello posso anche comprendere. Ah, aspetta, vabbè, e la prossima è 16 vignette. Yes. Proprio come in game non c'è nessuno. Io non vi dico un cazzo. Ma più che altro la parete di sinistra e destra, cioè quella di fronte posso capirci qualcosa, ma sinistra e destra? No, infatti mi sto concentrando su quella di fronte perché mi sembra la chiave di lettura delle altre due. Ok, vai. Quindi stavo tipo guardando quella per cercare di capire se c'era tipo... sembrava avesse più indizi. Le altre sono delle cose messe a cazzo con dei testicoli. Io mi sono appena resa conto che a sinistra il pallino sotto il quadrato è leggermente spostato dal centro del quadrato. È un issue mio. Sì. Non ho mai, infatti. Ah. Fastidio, perché me l'hai fatto notare? È tutto a pixel, quindi no, purtroppo uso Paint. Beh, poteva almeno farci ricordare come esaudire, cioè come risolvere il puzzle di questo stronzo. Counter argument, non è che ti ha cancellato, cioè ti ha riportato proprio qui per quello. Ma mi fa, neanche se si sforza tanto di ricordare, non si ricorda. Nella legge è proprio tanto. E non voleva che ci parlassimo con lui, quindi perché altro anche decifrato la cosa non capisco come interagire con il ma nuovo. Appunto cosa devo fare? Forse non l'hai decifrato. Vabbè, stai calmo, piano con le parole che qua spacco. C'ho la stecca in mano. Stronzo! Io che ho sempre oggetti completamente random in mano. Bianici, quanta matematica ci devo mettere in questa cosa? Un po', non troppa. Oh, abbastanza no. Che ci può arrivare Eddie. Va bene come... Non è vero mai. Quindi non c'è il triangolo di Tartaglia. Non c'è il triangolo di Tartaglia. Ok. C'è il teorema di Pitagora. Sono triangoli, I guess. Ma allora, l'unica cosa che io riesco a osservare è che tipo... nelle figure a destra c'è sempre una clessidra, ma nelle figure a sinistra non è vero. Nelle figure a destra c'è sempre una clessidra... No, cioè, non è vero, il cerchio... Il cerchio, se lo guardi storto, è una clessidra. Cazzo, la vedi la clessidra di un cerchio? Però, cioè, sono due triangoli che fanno così, è una clessidra. Sono triangoli quelli! Ma dai, non è... Io ho una mente artistica, non matematica! Ma l'artista dei miei coglioni è troppo! E la gli angoli! Non mi interessa! Poteva fare un rombo se voleva fare qualcosa di... Non lo prendo come triangolo. Vi dico che io mi sto divertendo molto alle vostre spalle. Immaginavo. Sì, quindi... Riaccendi la cam, brutto codardo. Ma io ho voglia di abbandonare qua il puzzle proprio perché so che porta giù Willow Pjanic. Poi proprio avere voglia di farti da master. Dai, esagerato. Allora, il quadrato sulla sinistra di quella della prima immagine, di quella di destra, sono le due clesside unite. No, devo togliere la cam, scusami. Ma ridici pure in faccia, tanto non è che cambia. Non voglio darvi nessun intel. Vabbè. Quella dopo, perché c'erano dei cerchi in una cosa con dei triangoli? Ma soprattutto perché in quella sinistra c'è un cuore? Cioè, è quello che non comprendo. Io continuo a vedere due testicoli abbastanza forti. Per me sono testicoli, però volevo evitare di chiamarli testicoli, quindi dirò cuore. È tipo il simbolo dello zolfo, però senza il loop. Cioè sì, il cuore, è vero, quello è una fire carry, capivo? Il simbolo sopra ci assomiglia. Devo per dire il tatuaggio di Julian di De Arcana, però. Solamente quello. Letteralmente. Oh. Ci stiamo divertendo, ragazzi. Raga, io non ho idea. Sono no, neanche io. Ci sto ragionando. Vedete Miff che è seduta tipo in un angolino, che ha dato la luce a uno di voi. Ha dato la luce? La luce, la mano a Penny. Mamma Miff, Dio. Dio mio no. Cioè, le voglio bene, ma non so se la vedrei brava. Non lo so, oddio. Vabbè, sorvoliamo questo e torniamo sul puzzle. Top 1, madre che abbandonano i figli. Non penso, sai. E se non l'ha fatto Moira, di certo non lo farà me. La clessidra piena è il 4. No. That's not, no. Io non ti andrò a mentire, ti do solo questa intel. Ogni minuto che passa mi ricordo un po' meno la soluzione. Ce l'ho scritta, quindi arriverò a un punto in cui io non so come mai è quella, però è quella. Però è quella. Okay. Ce l'hai scritto? Sì, ce l'ho scritto. Ah, ok. Anche perché l'hai dovuto dare in pasto a ChatGPT. Esatto. Per farmi dire che non c'è arrivato. Quindi, secondo te, se non ci arriva un'intelligenza artificiale, ci potremmo arrivare noi? Certo. È proprio quello. Ovviamente. Pensi di essere più stupida di ChatGPT? Infatti. Sara, dai. Allora, considerando... Guarda, non stiamo facendo l'allegation. Aiutatemi a ragionare. Considerando l'ultima immagine, quella fronte con le... quelle clessidre. Yes. Ma ci sono 12 clessidre associate a un punto. Ci sono 5 punti, quindi facciamo 5 per 12. E 12 per 12 associato ad una linea, quindi una linea rappresenta 5 punti. Eh sì, quindi... è quello che stavo dicendo prima, sì. Però mi sembra, non mi sembra la via del paradiso quella. Quindi 4 cerchi sono rappresentano 60. 6 per 4, quindi 144, no sì, il cazzo. Che stavo facendo la 12 clessidre sono un punto. Sì, 12 per 5 sono 60. Poi sì, 60 per 4 sono 1440. Per 4 perché per 4? Perché ci sono 4 cerchi all'interno del sì, ma ci sono stelle. Ma sono 6 le linee per cerchio. Se quella sopra è la leggenda della linea e quelle sotto sono linee, sì, che formano cerchi. Ho dimenticato un passaggio allora. E quindi sarebbero 12 per 5, quindi per 60 sono 1440. Allora, 12 per 5 sono 60, quindi poi faccio 60 per 6 che viene 60 per 6 sono 360. No, aspetta, cosa? 360 è tipo i gradi e il cerchio. Quindi 360 è un cerchio. Poi moltiplicato per 4 perché ci sono 4 cerchi. Quattro. 1440 e siamo di nuovo qua. Qui ci sono 4 cerchi. Quindi 4 cerchi equivalgono a 1440, chi lo sa? No, secondo me sono le prime due, sono un'informazione sulla quantità, tipo. E... cioè, il punto è 60. E buona, il punto è 12, la linea è 60. Quindi ci sono 60 per 40 di qualcosa. Buona, scusami. 12 per 4 che sono 48 di 1 più 6 per 4, 24. Perché, 12, perché 12 per 4? Eh? Che 12 per 4? Perché ci sono 4 pallini sulla prima clessidra. La prima clessidra possiede 4 pallini e 24 lineette. Ogni pallino vale 70. Sì. Ma buona, continua a sbagliarmi. Ogni pallino vale 12. Ah, perché tu pensi che il vuoto dentro conti come pallino? Altrimenti è stronzo. L'alternativa perché è questa. Ma secondo me non conta. Secondo me non conta come pallino, perché secondo me conta come sfera vuota che poi si ricollega alla clessidra dopo. È quello che stavo cercando di capire. In che modo. Perché un conto sono la prima clessidra, quella mezza con quella intera, che si ricollegano una con l'altra. E poi il problema è collegare quella intera a quella segmentata e poi a quella vuota. Saranno le potenze di 4 successive? E che sarebbero... cosa sono? Un 400? Ma che non è che tutti hanno fatto due lauree, cioè... Neanche Ica, dir la verità, quindi cioè, appunto qua c'è solo Pjanic che ha fatto due lauree, quindi... Non è neanche finita una io. Ok, quindi nessuno di noi quattro ha una laurea. No. Già. Beh, a posto. Peskovski? Io sono a 3 esami da una laurea, però non conta. Quanti esami? 3 dalla laurea. Pensavo molto peggio, complimenti. Pensavo molto peggio. Ti giuro su Dio. Quelli veri. Ti giuro... Sì. Non ti sto prendendo per il culo. L'altro, tipo l'altro ieri, ho menzionato questa cosa a mia mamma per motivi. Dico, boh, credo che Ica si laurerà, boh, se l'anno prossimo minimo avrà minimo. Che è comunque sei... l'anno prossimo. Sì, sì, sì. Cioè, tra esami da laurea sono 6 mesi come minimo. Esatto. Paesi con molta calma. Che dico, tanto ne avrà almeno 6. Bravo, bravo, bravo. No, dico a... cioè, mi confermi che a Pisa è così, devi finire gli esami prima di iniziare la tesi. No, in realtà posso chiedere la tesi adesso. Ok. Cosa che farò mese prossimo, quindi... Anch'io mento su tutto. No, questa è una speranza. Ah, ok, ok. Cioè, non è una mezza... Io spero di poterlo chiedere okay, mese okay, prossimo. Ci sta. Okay. Allora, ci comunque, sta. Raga, io vi giuro... Non so dove mettere le mani su sto puzzle. Cioè, per me, io. Se volete, possiamo stare qua tutta la serata. Ma io so andrei avanti. Ehi, io so dove mettere le mani e addosso a Bianici. Riaccendi la cam. Dai, vieni che ti prendiamo a pugni bene. No, perché sono autistico e adesso devo risolvere questa cosa, sennò non più andrò avanti. Io ho la DHD, mi sono annoiando, bisogna meta, essere... vi do un aiuto. Sì, aspetta, aspetta che mi rimetto le cuffie, che sono in modalità ascolto. Ok, ci sono. Andate. Sono 3 parti, come avrete intuito. Più una. È questo l'aiuto, giuro su Dio. Aspetta, no, no, no. E una chiaramente è la risposta, cioè è quello. No, no, stai a seguire. Uno è dove devi rispondere, diciamo. Una sì. È la domanda. Una sono le regole. E una è una parte di lore. No, top. Hai tu detto però 4, dato... però. Sì, 4. Esatto. Uno dove devi mettere la risposta. Una è la domanda. Una è la parte di lore e uno è le regole. 4 parti. La parte della... cioè, c'è una parte che, come avrete intuito, è un po' diversa dalle altre. Non vi dico nient'altro, vi ho aiutato. Letteralmente non vuol dire un cazzo. Sono tutti sono diversi dalle altre. Tu ci hai detto, no, beh, la parte destra e sinistra chiaramente sono associabili una con l'altra a livello simbolico, però il punto è tipo, tu ce ne hai dette 4 e io ne vedo 3. Ok, dov'è la quarta? Nella parete. La dove quarta è probabilmente quella forse frontale dove c'è il buco, allora. Esatto. Cioè dove ti entra all'interno del cubo. Nel buco non c'è niente. Dove c'è il... Sì, ho capito. Puoi capire bene. Ah, vabbè, la quarta parte c'è... è il cubo. Bravo. Cioè il cubo è tipo, dai tre lati ci sono le incisioni e in uno c'è l'entrata dentro con l'altare, se ho capito bene. No, il cubo è al centro della stanza e okay, ci sono i simboli incisi che danno verso gli affreschi. Quelli che vediamo noi, destra, sinistra, front, sono sulle pareti, cioè sulle pareti della stanza sostanzialmente. Ah, ok, è una stanza. Quindi, quadrata con un cubo al centro. La quarta parte di cui centro, sta parlando Pjanic, è il cubo centrale in cui noi dobbiamo rispondere. Quindi okay, incidere noi. Ho capito adesso. Cioè adesso... hai contribuito, basta. Adesso puoi slogare. Tu la tua parte del puzzle l'hai fatta. Te ne qua vai c'è il quadrato e qua c'è la stanza, no? Ok, stiamo disegnando. Stiamo nel ladro. Ok. Torna in... okay, stiamo disegnando. Okay, ho capito bene, no? Qua c'è il quadrato e qua c'è la stanza, no? Sì. Esatto. Guardate, è all'interno della stanza, è una matriosca di cubi. Ok, perfetto. Sì. Ti fai conto che i nostri personaggi non sono lì, cioè sono qua oggettivamente. Okay? Vabbè, è indifferente, cioè siete entrati dall'altro. Stiamoli per quello vivere. Per... Sì. Cioè comunque una parete non ha delle incisioni perché è l'entrata, banalmente. Esattamente. Cioè. Esatto, quella dove c'è, okay, Adone. Perfetto. Qua, siamo entrati da qua, c'è una bella freccia. E quindi sono front, quella dall'altra parte, destra e sinistra, ok, quindi sono... La domanda, le regole, la risposta. E l'altra qual era? Lore. E lore? Vabbè, ma che cazzo ce ne frega. Sì, ma qual è la lore? Esatto, non sapete qual è quale. Cioè, allora, la regola è quella chiaramente di fronte. Anche perché è quella diversa. Ok. No, non vuol dire un cazzo questa parola, però dico di fronte. No, ha senso, però. È l'unica in cui c'ha una leggenda, ovvero un puntino, sei Cressida. A meno che Pjanic non sia schizofrenico e non vuol dire un cazzo, ma essendo logico, spero che un minimo di logica. Credo ci sia solo una cosa che è Flavor, però comunque non è proprio a caso, ok? Ma non sto dicendo che questa cosa sia a caso, non so cosa ci sia. No, dico, credo ci sia un motivo per cui ha messo un pallino e poi sei Clessidre di fianco, per dire, a un pallino equivale... Ah, ok, Clessidre. Sì, nell'ultimo... Sì. Ok, non è fatto a caso. No, pensavo stessi parlando di un'altra cosa e stavo per dirti, tu non è che l'hai già vista una di queste cose, no, eh? No. Dio mio, no, non lo so, ma... Sarà tranquillo. Succede tranquillo. Sempre così. Che io dico una cosa che per me ha un senso, tu ne capisci un'altra e dici: bravo Eddie, complimenti, hai risolto il puzzle. Io No, non ti preoccupare, non ti dico più niente. Ma è solo, se puoi dirmelo, è solo numerica come problema. E devi capire di cosa stai parlando. Cioè solo numerica, no? Nel senso che se non sai di cosa stai parlando, sapere i numeri non ti basta a capire la risposta. Cioè non capisci la domanda se fai solo i numeri. E che noi dobbiamo capire il linguaggio di sta roba, cioè cosa cazzo vuol dire. Ok, vabbè, dobbiamo giocare a Tunic, ho capito. E allora, la prima destra ovviamente di X sembra essere la domanda, il testicolo sembra essere il flavor e l'ultima è la guida? No. Anche a me mi sa di guida, secondo me. Le regole mi sembrano le classiche. Ok, ho visto. Yes. Più che altro da prima acchito mi sembravano tipo le clessidre, siccome rappresentano il tempo, mi sembrava tipo il rapporto tra ore, giorni, settimana, eccetera, eccetera, anche visto l'incrementale, però non so se è effettivamente così. Ok, la domanda cosa cazzo cerca di chiedere? Ma la domanda sono quelli... È la prima. Ok. Tantissimi auguri, ragazzi. Ok, va bene. Ipotizziamo che questa sia la domanda. Che cazzo sta chiedendo? I'm guessing un numero? Beh, sì. Cosa devo contare? Le clessidre, che sono tradotte nell'ultima. Immagino che ci siano degli operatori. Sono allora simbolo. Devo tenere la camera spenta perché mi scappa a ridere. Perché poi dici quando non me l'aspetto, quindi non riesco a mantenere la poker face. Se me l'aspetto, lo tipo... Ricominciamo. Sulla parete di sinistra c'è la domanda. No, sulla parete di destra. A destra. Quello col cerchio, okay. Col cerchio che non contiene triangoli è di quello. Quella Giorgio. È la domanda. Perché? Perché la se domanda? Se hai un'ipotesi migliore la ascoltiamo, ma ha già detto di sì che è quella. No, però io voglio capire il perché è la domanda. Cioè, gli altri due prima cosa vogliono dire? Ha evidentemente un punto di domanda in mezzo. No, ok, no. Vai, Mif parte su questa tangente. Canon, non me ne frega un cazzo. Cos'è quel punto interrogativo? Ma quale punto interrogativo? È tipo, immaginati quello spagnolo che è al contrario. Vabbè. Sì, quindi a me sembra quasi che tipo o giri la clessidra, cioè nel senso che si gira. Oh, che cazzo ne so, mi sembra una falce o il simbolo quello dell'Islam, cioè... Aspetta, no, la falce, ha ragione, ha senso la falce, sì, ti ho raccolto, cazzo, sì, ha senso. Quella è una falce, quindi? Vedete, a questo delirio, no? È presente quando... un'immagine che vale mille parole. Ciao Sara. Ciao, io ho visto. Oh, bisogna respirare. Certo. Ok, sì. Grazie a questo treppone gigantesco di me, effettivamente abbiamo un senso. Ok, quella potrebbe essere una falce al contrario, ok. Io mi sono trattenuta da dire il simbolo del comunismo, ho detto quello dell'Islam, però ci siamo. E quindi che cazzo significa? Fermi, quindi... Tempo del raccolto? Quando si fa il raccolto? Ma non credo sia un rebus, credo. Why not? I mean, why not? Esatto, cioè, può essere, cioè, il allora, tempo aspetta. Di quando si fa la raccolta. Fermi, io la sparo più grossa. Vai. Il primo quadrato... Vai, spara. Se uno dice il tempo della raccolta, il primo quadrato non può essere i quattro elementi assieme. Ah, no. Oh, anche, sì. Perché c'è aria, fuoco, acqua, terra... Mi sto segando. È vero, hai ragione. Però non capisco... Con il raccolto se ne tolgono due? Cioè, ne mancano due? Oppure è semplicemente una mia... Ferma. Allora, se il primo quadrato sono i quattro elementi, toglie via due, quelli lì sarebbero acqua... Qualcuno può controllare che quelli sono acqua e terra? No, sono terra e acqua, terra e acqua, tecnicamente. Sì, perché aria e fuoco hanno la linea. Infatti... Poi, però, qual è il triangolino piccolo? Io non riesco a... Boh, c'è un punto? E poi... Aspetta. Mi è venuta in mente una cosa. No, però adesso stiamo tirando fuori dal culo, perché mi viene da dire l'ultimo simbolo è il simbolo della Terra. Intesa come mondo, come il nostro pianeta. Allora, sì. L'ultimo simbolo si è usato quelli alchemici, e non so se l'ha fatto... È il sale unito con la salpietra. In quale? Ma anche il simbolo della terra? Il cerchio con la croce. Cazzo di niente, perché hai torto. Cioè, hai torto. Quindi aspetta, cioè ha davvero senso che ci siano robe riguardo l'alchimia? Ah no, ok, perché la terra è anche quello. Ok, yes, sì, l'ho visto dopo. E vedi? Sì, no. Cioè, questa è la mia teoria. Ok. Ora li salvietro insieme e formano la terra, comunque. Vabbè. E allora? In canto, questa roba è tracciata su un tempio dell'antica Grecia, diciamo. Quindi c'è, come a livello culturale, un mix di alchimia classica, robe greche e altra roba. Sì. Ma poi l'unica che... cosa che so dell'alchimia... che il zolfo e mercurio sono complementari, che rappresentano fuoco e acqua, e si dice che mischiandoli insieme si può creare qualsiasi metallo, in particolar modo l'oro. Sale, zolfo e mercurio compongono i tre elementi della materia, che sono l'anima, la mente e il corpo. Però non so allora, quanto può essere utile. Ricapitoliamo, la parete di destra quindi è la domanda? Secondo me sì. No, ma l'ha confermato prima Pjanic, e sì. Giusto? Quindi quella piena. Sì, sì, sì. Ok, quindi dobbiamo... Se la parete di destra è la domanda, riguardando l'immagine delle regole, dobbiamo guardare la roba del... 12, 5 e poi 60. Sì. Mi scombussola al 5. Che 12 per, perché 12 5? Per 5? Perché sono 5, c'è la freccia con 5 pallini, sì. Perché questa conversione qua da 12 a 5. Ma è trigger il fatto che se appunto un pallino equivale a 12 clessidre e 5 pallini a una stecca, mi dà fastidio perché il simbolo, cioè il senso di lettura passa ad essere da sinistra verso destra, poi dall'alto verso il basso, e a me questa cosa disturba. Concluso il mio rant. Thanks. Grazie per aver condiviso con noi. E quindi una clessidra intera, che poi è la domanda. L'alchimia con appunto è questo, perché noi abbiamo fatto una bellissima storiella che non c'entra un cazzo se guardiamo le regole. Allora, perché poi in realtà sono simboli alchemici, ma sono mixati tra di loro, cioè il quadrato contiene tipo terra e aria, saranno a questo punto, quelli tagliati sono terra e aria. Altri... Guardiamo adesso, perché non è considerato citare e meta andare a vedere i simboli alchemici. Porca troia, tiro fuori il mio grimorio, non me ne frega nulla. Io vi dico, potete fare quello che volete, però se entrate... Ho fatto un errore grosso come una casa. Sì? Era al contrario. Ciao mamma, adesso tra poco vado, buonanotte. No, ho fatto un errore. No, dai, ma non posso averlo sbagliato. Beh, a quanto pare... Ti hanno rubato qualcosa in casa. Sì, infatti. Cosa mi hanno preso? Non lo so, però ti hanno rubato. Una borsa, tipo. Ah, no, vabbè, di mia mamma. C'è stato un furto. No, comunque ho fatto un errore, perché quelli con la lineetta sono la terra... E l'aria. Sono terra e l'aria, in teoria, sì. Quindi ho sbagliato. Vabbè. Quindi le altre sono fuoco e acqua. Sì. E allora, i triangoli sono fuoco e acqua, però non sono disposti così, cioè sono up and down. Sono laterali, sì. Nella maniera sbagliata, quelli, in teoria. E non c'è il quadrato, mi pare? Cioè c'è un quadrato, ma dubito che sia quello. Anche perché non... No, doubt. Doubt. Però per ora... Stand out? Siete un buon punto, cioè. Ma che buon punto? Mi manca di capire da zero quello della lore, che proprio non avete la più pallida idea di cosa sia. Sì, hai detto che è quello della lore, esatto, però hai ignorato, è tipo... Da zero? Anche perché è quello di cui veramente non capisco nulla. Sì, comunque serve per il puzzle, cioè è di lore, ma è comunque un frammento del puzzle. E allora di che serve? E di questo, secondo me, ci avete quasi tutto. Poi, ora, adesso, i dettagli. Sara, domani vai tu in Liguria e metti una bomba proprio dentro Pianici, per favore, lo fai esplodere. Dentro Pianici. Dopo faccio il film. Fagli bere 2 litri di latte, per favore. Raga, ma me lo sono sognato, c'è un episodio dei Simpson in cui sono su una barca e si rompe, possono girare solo a destra e fanno la rotta a forma di Nautilus. Non era Family Guy? Era i Griffin, non era i... Era i Griffin. Non è un episodio dei Simpson quello, quasi sicuramente. C'hai l'autismo dei Simpson? Sì. Beh. La domanda è... Sì, no, ho visto tutto fino alla stagione 12esima. Dalla 12esima in poi non ho visto niente perché fanno schifo al cazzo. Quindi se dopo la 12 non lo so, non ho idea. Ma allora, ok, quindi torniamo sulla parete a destra. Quindi i quattro elementi, se sono i quattro elementi, poi viene tipo tolto l'acqua e il fuoco. Sì, i primi sono i quattro elementi, insomma, se a sto punto. No, e rimangono acqua e fuoco. Rimane acqua e fuoco e vengono tolte terra e aria. Ok, perché te vedi, stavo per fare un volo pindarico, ma proprio di quelli. Otteniamo... Fare, per stavo per dire, fallo. Ah no, tolgono la terra e... Cioè, no, è sbagliato, però dico, ah sì, tolgono la terra e l'acqua perché l'aria e il fuoco, i cieli, le divinità, la dimensione superiore. Perché sono materiali eterei, però vabbè, di eterei non ne vogliamo. Il quadrato sono i quattro elementi perché i vari triangoli sono rappresentano ciascuno i vari elementi. Sì. È solo che generalmente sono soltanto visti in sopra e sotto. E infatti, cioè, che sono messi strani. Sono ingabbiati. La falce abbiamo detto essere una falce, a questo punto. Sì. L'avete detto. Te l'ha detto Miff prima. L'ha detto Miff nel suo rant. Che delico. E il triangolino mio, in perché quel triangolino lì a questo punto anche è me. Nuovo. Nella il triangolino ti posso dire che è esattamente quello che pensi che sia. Un cazzo. Siete in Grecia. Che cazzo vuol dire? È una A? No, non ho studiato il greco, si porca vede. Troia! È una D. È come se l'avessimo studiato tutti. Cioè. È una D. Ancora una volta. Una D in greco, altrimenti... È il delta. Grazie. È il delta, esatto, sì. Not fucking put matematica nel mio... Però delta dal punto di vista matematico, quindi il discriminante. Io vi dico un po' troppo, quindi mi ho dato un suggerimento, basta, cioè, mi avete detto il braccio. Andiamo a vedere il discriminante. Ma io prendo quello che voglio, ti prendo no, i capelli. No, no, quello non c'è, no, non c'è che non ci ha messo della roba in quello. Il simbolo dell'acqua era il... Triangolino verso... Quello dell'acqua è il triangolo sotto sopra. Sì. Mi si continua a bloccare la cam, Dio buono. Again, quale potrebbe essere quindi la domanda? E dove si incontrano acqua e fuoco al... raccolto sul delta di un fiume? E cazzo ne so. Beh, oddio. Rispondimi con un numero. È uno dei miei esami questo. Magari non con un numero, ma con un orario, tipo c'è un... Allora l'agricoltura, io non ne so l'agricoltura. Se non è un team, cioè, se non è un orario specifico, o è un anno. Una stagione? O una stagione, esatto, cioè, stavo pensando a quel tipo di cose. Cioè, Bianchi che è cambiato. Sì, è dal punto di vista matematico è una variazione. È un... Ma qual è la variazione? Il fatto che abbiamo tolto l'acqua e il fuoco? Quando avviene la variazione, come avviene? Non fa che clue. I'm picking throws here. Calcolando il quadrato dell'area del triangolo, cosa... Il triangolo... Ricavami una mela. Il triangolo pieno rappresenterebbe l'assenza dell'elemento? Oppure che vuol dire? Avere il... No, Dici il triangolino piccolo? no, anche nelle Ok. clessidre, cioè se le clessidre sono i due elementi associati, oltre a rappresentare una clessidra. Tra l'altro, il simbolo per la Terra è il simbolo per la Terra nel senso Gaia, non... Sì, ma l'ho detto Gaia, sì. prima, non ascolti! Non t'ho sentito, no? Abbiamo il solito problema, poi che cazzo vuoi? L'ha già dimenticato, non è che non l'ha sentito. No, allora, il cerchio con la croce vuol dire Terra inteso come il nostro pianeta, come Gaia, appunto. Ok. Ricontrollo anche questo, perché... Sì, no, ce l'ho mai No, lo perso. dico È rabbio... giusto. È giusto, è Dai, una le cose conferma. giuste me le Ok. dico. Ti va bene? Ok. Mi sembra il minimo. Me lo ricordo perché l'ho disegnato al mio compleanno, e quindi... Se fosse un videogioco questo non avresti un cazzo di niente. Sì, ma sul videogioco di solito puoi pigiare i tasti a cazzo finché non vedi il verde, tipo. Sì, infatti. Devi Oppure cerchi la belli. soluzione online. Madonna, che tristezza, ragazzi. No, quello no, quello no. Però Sì, ma solo anche se pigiare a fosse, cazzo cioè, cercando delle idee. se troviamo il periodo di tempo in cui avviene il raccolto, che di solito il raccolto avviene a settembre comunque, cioè io penso del A meno che non grano, sia una domanda ok? più esistenziale. Colto nel senso di... la formazione di Sul qualcosa, il raccolto cambiamento non del... ti ho mai detto di sì, a differenza che sulla Terra. Sul serio. Cioè, no, io Mi posso toccherà dire, buona la strada, ma... ragazzi, posso dire, io qua appoggio il telefono e da adesso vi ascolto. Mi hanno menato abbastanza oggi, non ho anche bisogno delle menate Non vi do psicologiche. consigli a voce, ma vi faccio fare dei roll se volete farli. Certo, subito. Su tutto. Sono Cioè... speranza. Dopo Su tutto. le pietre, ti giuro. La litografia. Mamma mia, no, scusate, apro questi piccoli parentesi. Nell'ultima verifica di quinta superiore di storia dell'arte, il prof mi sulla domanda parla della litografia, non l'avevamo mai trattata, l'abbiamo cercata su Wikipedia, tutti col cellulare, c'erano tipo quattro righe, abbiamo detto ok, Sì. Oh. scriviamo tutte quelle quattro righe. Perfetto, chiuso parentesi. Alchimia ve lo faccio fare come test di scienza. Chiunque di voi voglia farlo può. Io. 10. Sborro ovunque. Bene, ho fatto 13. Volete farlo anche voi? Dai, che Perché palle, fallo. Ica! L'ho fatto anche io, ho fatto 9 di dado e scienza, hai detto? 10. Tondo. Io ho fatto 13, ah! Non 11, 9 più 2. c'ho uno di scienza. Ah, perché Per stavo guardando me. cosa già. Neo, sì, c'ho... chissà Stai perché mi ha guardando il aperto. mio. Certo mi ha aperto, sì. Certo mi ha aperto, poi c'è sul mio e me l'ha aperto su Sara. Lascia stare, a me l'apre sempre Sono su così Sara. invertiti i nostri. A me l'apre su dietro. Cioè... Salvato di nuovo. Il link. Il mio orgoglio mi impone di non rollare. Frega un cazzo dell'orgoglio. Esatto. Sì, No, io ho un più uno, ragazzi, non lo faccio nemmeno. fai. No. E le vostre conoscenze di alchimia vi permettono di sapere che ci sono dei parallelismi nei concetti alchemici. Cioè, ogni elemento è associato a più cose. Ha un Ok. umore, ha una fase alchemica, ma anche a robe cosmologiche. Quindi non sono i segni zodiacali, ma anche proprio certi momenti astrologici. Avete rollato un 10? Io dico che non vi dico di più di così perché sennò ve lo spoilero. Io a Ciri ho rollato un 13. Quindi anche tipo i liquidi interni che bilanciano il corpo, quelle No, cazzate lì. penso che il suggerimento sia... è tipo una data di qualcosa, di un avvenimento. Se Sì, non ho capito raga. male. È È quello un che ho detto, ma avvenimento... interpretalo come vuoi. No, infatti era tipo quello che mi è sembrato che fosse la cosa. E stavo parlando del primo simbolo della prima immagine che avete. Del primo simbolo della prima immagine. Sì, quindi i quattro elementi, diciamo. Il quadrato, quindi. La genesi. Creazione. Sì, la genesi in che senso? Perché nell'alchimia la creazione tipo... non so, dell'universo? I don't know. Perché l'alchimia, l'inizio, la fase iniziale dell'alchimia si intende con il nigredo, con la decomposizione, eccetera, eccetera. Ok. Ok. E come si rappresenta? Questo simbolo con cui rappresenti l'acqua, mi pare. Ah. Nigredo, albedo e rubedo? Sì, albedo. Mi sembra. Tre. Poi ce ne sarebbe una quarta che era teorizzata e non è mai stata concettualizzata, che corrisponde all'elemento che era fuori dalle tre fasi, che non mi ricordo se è il fuoco o l'aria. Citrinitas. Può essere. E qua ce l'avete tutti e quattro insieme. In altre parole, il primo coso è qualcosa che di quattro ne fa uno. Dell'unione di tutti, nell'unione di tutti, sì, di questi quattro viene qualcosa di unificato. Forse è un concetto più semplice, tipo la terra origina dall'unione di l'unione dei quattro elementi. Ok. Semplice. Più semplice ancora? Mi sono distratto. Tranquillo. Ok, domanda. Quanto è vicino alla teoria greca? Cioè, ai miti greci della creazione banalmente dell'uomo, ok? Quanto? Ma mi chiedi Fateless o questa cosa qua? Questa cosa qua. In relazione con Fateless. Cioè, noi qua la stiamo trovando appunto nella Grecia, ok, sì. Di Fateless. E io so che i greci in alcuni miti tecnicamente veniva... l'uomo si creava dalla terra, ok? Se non è il pianeta, magari hai detto più semplice, magari l'individuo del pianeta. No, dico proprio il concetto che devi trovare è più facile che una roba. In Grecia c'era la roba dell'uomo è creato con la terra cotta. È quello che stavo dicendo, esatto. Sì. Che poi è tipo. Gli è stata data l'intelligenza, tipo Zeus si è incazzato come una faina, come al solito, quando qualcosa gli va storto. Qualcosa succede, più genericamente. Sì, sì, perché cos'era che era Prometeo ed Epimeteo che davano le cose a tutti gli animali, no? E poi hanno detto, ah, ci manca, non abbiamo dato un cazzo all'uomo. Dai, un fulmine. Esatto. Sì. Certo, sono sicuro che non avrà conseguenze. Okay. È una cosa ancora più semplice del i quattro elementi formano il pianeta. Sì. I quattro elementi formano l'uomo. Ho detto compongono... che i quattro non sono solo elementi, ma sono anche umori, ma anche fasi alchemiche, ma anche momenti astrologici, ma anche... Quindi l'uomo è composto di quattro parti. La pizza è divisa in quattro fette. Sai che la pizza era il suggerimento spoiler non spoiler che ti volevo dare? Perché pizza, se riesci ad aggiungerci una coda, è la soluzione almeno al primo ma cibo. Pizza è il cibo? Sì. Pizzaiolo? Perché Lieto Mario è italiano e quindi la pizza. Chiama Oscar. Fantastico. Pensa alle poliremmatiche di pizza. Che cos'è un poliremmatico. Ah, scusa, non c'è Alice, errore mio. Manca l'unica che poteva capire sta cosa. Eh sì, anche Gabriele. Beh. Gente con due lauree, roba che non ci riguarda, raga. Scusate, sono classista, non ci posso fare niente. Ho anche altri difetti. Io mi prendo del cibo che non ha a che fare con questa cosa, ve lo giuro. Quindi ve la vado a togliere. Perché non posso. E niente, spero che abbiate qualche idea brillante mentre non ci sono. Ma prendo la pizza. Magari. Giuro. Ma non la posso mangiare. Io comunque, ragazzi, mi sa che aspetto un attimo che torna Sara e poi devo staccare perché domani mi sveglio presto. Uh-huh. Devo fare la solita cosa anch'io, in realtà. Scusate. Anche perché io non ho idea, ragazzi. Io ho avuto uno scatto. Tra l'altro ho scelto una delle poche tematiche che, di cui non so praticamente niente, che l'alchimia è tipo una roba che non mi interessa per niente, che è tipo, eh? Oh, we're into something. Oh, cazzo. No, però io mi sento potente perché ho dato dei suggerimenti base, poi voi siete riusciti, cioè... Mi sentite? Sì. Io vi propongo due cose. Non c'è Sara, al limite glielo ripeto. Fare tutti i roll che vi... pensavo di far fare per i suggerimenti. Da qui alla prossima volta che giochiamo, fate quello che volete, cioè proprio il metodo che preferite per risolverlo, compreso chiamare Stella, per quanto mi riguarda, Eddie. Ma che dico senso? Stella perché Giuliano e Cami, cioè, perle ai porci. Pensa se facessi sta cosa con Marian. The fuck is Marian? Angelica. Ah. Non sarebbe cambiato nulla. No, avrebbe remato contro. Appunto. Come Mircaccio Nazionale faceva. In verità dice che ne sa di alchimia, ma... Eh sì, però devi anche capire cosa frulla nella mia cazzo di testa. Devi anche capire la matematica, e qua... La matematica si mette solo delle grandi addizioni / moltiplicazioni, perché quindi... Perché se no, con voi... Ma... Con voi ogni riferimento... Domanda, tu hai fatto questa cosa alla portata di tutti? Sì. Quello che ho fatto. Sono 10 anni che gioco con lui. Detto... Sì, sono sempre la roba. Non ha detto che tempo. Io potevo risolverlo. Io sono sempre non ci credo, Eddie. Non perché non credo. Vai. A parte matematica, potevi risolverlo. Vi ho dato un'altra indicazione che ve la ripeto solo perché l'ho detta en passant. Invece è giusto sottolinearla. Come faccio a dirlo? Il mondo è lo stesso nostro. La terra si chiama terra, il funzionamento di tutte le cose del mondo è lo stesso. Ok. Bene, è importante tenerlo a mente. Devo iniziare a considerare la gravità, il moto dei pianeti, il fatto che... Le cose lì sono identiche, al netto del fatto che i pianeti hanno nomi diversi. Sì. Bene, questo era il primo punto da tenere in considerazione. Però ha detto che la pizza ha senso. La pizza ha senso per un motivo così stupido che mi rifiuto di spiegartelo. Però se vuoi andare a cercare cosa vuol dire poliremmatica... La pizza è fatto... Dicevo. Volevo farvi fare i roll per i test che secondo me aveva senso farvi fare. E poi da qui alla prossima settimana decidete voi il metodo che volete per risolverlo. In sessione decidete se tentare di risolverlo oppure ve ne andate, perché comunque è inutile stare degli anni in una stanza che non sapete risolvere. C'è la poliremmatica? Ho letto cose diverse e non riesco a comprenderne nessuna. È un sintagma costituito da due o più parole che significato tono, vabbè, tipo acqua e sapone, conto corrente, cioè due parole insieme che compongono un termine sintagma... Non c'entra un cazzo con le... Pizza margherita? Ci sono le margherite, i fiori? Un cazzo, Eddie, non ti dico proprio una sega di niente. Però sì, hai capito cos'è una poliremmatica, quindi sono contento di averti insegnato qualcosa oggi. La pizza diavola? Dico un cazzo. I diavoli? Ma anche se non indovini, io non ti dico proprio un cazzo di niente, Eddie, mi spiace. Pizza in faccia. Quella che ti do, non mi aiuti. Che ti ho dato... ho dato un consiglio e basta. E i roll che, che vi faccio fare sono uno su religione. Un attimo, okay. Devo pensarci. Che su quello su storia secondo me non ha nessun cazzo di senso. E c'è un altro che avete già indovinato, quindi secondo me non ha senso neanche quello. Ho una domanda. Vai. È il secondo simbolo della prima, sì. La falce, è un pianeta rovesciato. Detto. È rovesciato. Non è rovesciato. È Venere? No. È Venere? No. Se non è rovesciato, è Saturno. Oddio. Ok. Nel nostro mondo di Fateless, Saturno non esiste. Mi segui? Segui il ragionamento? No, ha il nome di un dio. Esatto. Ok. Quale cazzo era il nome di Saturno? Era... Non era Plutone? Job? No? No. No, porco. Il camper, dai, allora, Nettuno? No. No, Nettuno è Poseidone. Esatto. Saturno. Saturno non era. Ma scusami. Saturno era un titano, non era un dio. Cronos? Cronos. Sì. Su Fateless, ve lo ripeto lentamente, gli dei non hanno i nomi che hanno da noi, hanno altri nomi. Però le corrispondenze sono obiettive. Esiste Afrodite, c'ha un altro nome. Esiste Poseidone, c'ha un altro nome, si chiama Zagon. Ok. Chi è Cronos? Eva, Zara, cosa? Grazie. È Arba. Era facile. Ora. Ok. Come avrete intuito, questi fantastici geroglifici hanno due chiavi di lettura. Una letterale e una non letterale. Ok, quindi la Terra non è la Terra, ma è la divinità che corrisponde a Gaia, appunto. Aspetta. Gaia. Pausa. Ognuno di questi simboli può essere o la versione letterale, quindi questo sarebbe effettivamente il pianeta Saturno e quello è effettivamente Gaia, oppure sono le divinità che sarebbero Arva e Ceres, mi pare si chiami. Ceres non era lo stesso che avevamo trovato nella one shot di merda cogliona stupida. Sono sincero con te, non mi ricordo. Non c'era una divinità del raccolto e delle stagioni? Sara? Arva. Era lui? Sì. Con un altro nome, però sì. Ok, allora niente. Beh, è abbastanza triste, vero? Remate, volevi dire, vero? Remate, però. Era... Auguro il peggio a Darv. Io non penso tu voglia, tipo... Ers, scusate, non Ceres. Ers. Ers è sia la Terra che la Dea del... Di nuovo, la Dea del raccolto, della fertilità della Terra. C'è dell'overlapping anche nella fottutissima Grecia. Demetra è... Esatto. E quindi ognuno di questi simboli può rappresentare o il pianeta, o la divinità, o un altro concetto astratto. Non è detto che ogni simbolo... Cioè che una volta che avete trovato la chiave per un simbolo sia uguale per tutti i simboli. Ogni simbolo è a sé stante. Fine del suggerimento concettuale. Mi rimane solo una cosa, se mi rollate... Vabbè... che è fottutissimo Arva, me l'avete imbroccato, non ha senso. Sono ancora fermo la pizza. Ma io, secondo me, pizza 4 stagioni ha senso. No, ma secondo me intende tipo... Puoi dirlo alla fine della sessione. Ma in che senso? Che cosa hai detto, Eddie? Che la pizza 4 stagioni ha senso. Perché sono le 4 stagioni. Eh sì. Ah, la pizza 4 stagioni. Perché ho pensato pizza margherita, no, pizza diavola, Fanny, ma non c'entra. Pizza Fanny. Però... Abbiamo smesso di pensare alla pizza, ma va bene, sì. No, come? Avevo lasciato lì prima. No, io lo so. Un test di investigare a testa. Ma l'abbiamo già fatto religione, io non ho tirato. Ah, guarda, wow, l'avete imbroccato senza che lo dicessi. Io non ho investigato. 7? Uno cazzo era investigare? Io ho fatto io ho 7 più 5. Adesso ho fatto 6. 7 più, cioè okay, aspetta, 3 dovrei avere. Esatto, aspetta, 10. Aspetta un attimo, se il triangolo si può considerare come discriminante, vuol dire che c'è, cioè, tipo prima come si chiama la divinità del tempo? Arva. Cronos. Arva. Vuol dire che prima tipo le stagioni erano unite e poi le ha divise? Ah, oh? Oddio, potrebbe essere. Può darsi. O prima non esistevano e poi lui col suo scandire del tempo le ha create. I guess it's the same thing. Cioè, penso che sia la stessa cosa. Sì, anche. Perché il discriminante, per discriminare si intende, cioè, differenziare praticamente, mm-hmm. distinguere. Quindi vuol dire che magari se prima erano la stessa cosa, tipo, che poi, vabbè, parlo di stagioni, ma si intende tutto quello che deriva dalle stagioni, quindi gli elementi, gli stati d'animo, era tutto un uno che è stato diviso. Mm-hmm. Che è stato scandito. Sì, ha senso. E rispondo al roll che avete fatto, che è su quello di lore, che secondo me avete zero informazioni. Vabbè, rollo anch'io a sto punto. Cos'è che devo rollare? Investigare. Investigare che è... Mente, ok. C'ho zero. Abbiamo un 7, un 13 e un 10, mi sembra. Oh, triplo 7, ragazzi, jackpot. Il primo sembra una bocca. Il secondo è qualcosa che esce da un cuore. Il terzo sembra rappresentare una posizione, cioè sembra un indicatore. Fine. Allora, sappiamo che Arva è chiamato anche il re vorace. E lui... Allora, io però so una cosa meta. Aspetta, aspetta, fammi dire... Cos'è il Saturno che divora i figli di Goya? Che è un quadro che è già comparso in campagna, se ti interessa. Porco di è vero. Infatti, Francia, no, tu hai colpito dritto al centro. Però questo è puro meta, perché io so anche... Io dico la cosa che so. Ma tanto, ti ho detto, da qui alla prossima settimana potete fare quello che volete per risolvere. Cioè, io so che il seguace... Cioè, c'era un particolare seguace di Arva che doveva divorare i cuori per fare, non mi ricordo cosa, ma era per tipo accrescere la sua affinità con... Vabbè, Arva. Questa la sa anche Mif, cioè non è che serviva a fare meta. Vabbè, allora vaffanculo. No, pensavo dicessi Giannic... un'altra cosa. Ti strappo via tutti i peli delle ascelle. Divertiti. E... cosa volevo dire? Boh? Ma allora, se lui mangia e divora, tipo... cosa esce dal cuore? Questo è facile, eh? Una spada? Una croce? Che cazzo sangue? Di cuore c'hai? Sangue? E di dal suo cuore spara lame. Che cazzo sei? Un rumeno? Che cazzo, ma che cazzo di... rappresentazione è quella del sangue? Ma sei scemo? Oddio, mi ma che cazzo di rappresentazione? A linee, se hai solo linee dritte, come fai a rappresentare il sangue? Intanto ho fatto un cuore con delle linee curve, quindi devi stare zitta. Due gocce sono l'insieme di tanti punti. Ma... insieme di tante linee. Bello. Nell'alchimia due cuori separati da una linea indicano un'ora di tempo e io odio questa cosa, cioè proprio una roba che mi dà un fastidio tremendo, non l'ho usufruita. Maronna, mi dava fastidio e basta. Che rage bait che sei, Sara. Scusami. Va bene, e detto questo però io devo staccare. Buonanotte. No, stacchi sul più bello, fra fino a luna. Mm. No, qua os devo, ci mettiamo noi a di voi. Ciao raga, buonanotte. Ciao. Sara è un filo competitiva con i puzzle, non so se l'hai notato. Sì, perché nello scorso puzzle Beh, il taccuino, eccolo lì, il taccuino. Abbiamo dovuto scriverci una serie di cose e a cosa corrispondevano e fare gli incastri e capire l'orario. E dovevamo metterlo su una cassaforte. Il problema è che se sbagliavi, cosa c'era in palio? La tua cazzo di vita. Ok, banalmente. Quindi molto funny. E anche se noi deducessimo la domanda, che cazzo mettiamo sull'altare? Cioè, detta come va detta, cosa metti sull'altare? Cioè, ti ascolta oppure... Boh.